è stato Mattarella a dirci che noi possiamo venire in Italia, quindi noi vogliamo wifi, anche stipendio. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Non ce la faccio più. Il momento più bello della mia giornata o della mia vita in generale non è più quando arrivo a casa dalla ragazza o comunque quando la vedo e papà, ma è quando la mattina arrivo in studio e mi metto le cuffiette e ascolto il podcast della zanzara. Trans, prostitute, ma vaffanculo. Non vedo l'ora che arrivino le 18.30. 100% ci sarà Feltri a difendere il suo titolo. La patata bollente. Genio. Genio puro. Il titolo di Vittorio Feltri sulla patata bollente è geniale. Ragiona con l'uccello, non ragiona col cervello. Questo era il signor Rabbino. Sì, il signor Rabbino. Che... Allora, ragazzi. Diciamolo però, Rabbino l'ha fatto ieri perché stasera lui non può partecipare. Perché, siccome è la festa dello Shabbat. No, ragazzi, non però può... sono le 18. No, non ci scassare però, i coglioni alle 18.38 no, con sta roba. Devi avere ma molto chi rispetto. Se ne frega, devi avere dai, rispetto. Su. Ma ha detto che questa voce è stata registrata ieri perché oggi è la festa del, sì, dello Shabbat. Ma chi se ne frega? Quindi... Ma a lui interessa. Ma perché... non me ne frega niente. Tu le devi fare una... devi dire le cose in funzione della trasmissione, non in, in funzione, funzione di uno. Della tutela della persona che lui sa che, siccome oggi non può fare, lavorare, non si può lavorare di sabato. Ma quindi... chi se ne... Ma noi ce ne fottiamo di questa roba qua. Ma noi ce ne fottiamo i coglioni. Suo e quindi non. Quindi lo dico. Allora, mezza Italia è indignata con il titolo di Libero, credo, con il titolo di credo, Libero, patata bollente, la vita agrodolce della Raggi, sì, la sindaca di Roma nell'occhio del ciclone per le sue vicende comunali e personali, la sua storia ricorda l'epopea di Berlusconi con le oggettine che finì malissimo. Titolo patata bollente. Vabbè, titolo di stamattina, giornata di polemiche, Feltri che non si vuole scusare, più tardi verrà qui naturalmente. A scusarsi, a, forse. No, non credo proprio, giustamente non si deve scusare. Ma frega niente, scusa, ma che cosa di... Me ne frega niente proprio. La cosa incredibile è che a parte la Boldrini, vogliamo leggere quello che ha detto la Boldrini. Già il fatto che la Boldrini si esprima contro, vabbè, contro vabbè, Feltri mi fa pendere dalla parte di Feltri. Vabbè, che c'è? Piena solidarietà alla sindaca Raggi per la volgarità sessista del quotidiano Libero. Questo è giornalismo spazzatura. Mamma mia, ragazzi. Titolo calamburo offensivo. Mamma mia. Titolo calamburo offensivo. Mamma e sicuramente mia. E sicuramente gioca sul double meanings, come diciamo noi americani. Ma questo qua, ma sul grazie, doppio gioco. Ma questo che è... Ed è volgare, però, perché ma siccome il riferimento volgare, è alla patata. Ma quale volgare, cioè, dai, su. Non è volgare. Ma no. Non è volgare. Gioca no, sul fatto che gioca c'è. Su, no, gioca sulla patata. Sì, ma gioca quindi sul gioca fatto fine, che c'è una chiusa, storia. C'è una storia che riguarda anche i rapporti ancora tutti da chiarire. Riguarda i rapporti tutti da chiarire tra la Raggi e un suo dipendente, un dipendente del comune diventato capo. Ma io su questo la della segreteria la Raggi, tutta la non vita, mi interessa, ma c'è una cosa ancora da chiarire. I rapporti, ha aumentato lo stipendio a questo? Sì. Che rapporti aveva con questo? Non si sa. Certo, non sono paragonabili alla storia con Berlusconi. Siccome non si sa, intanto si butta fango. Ma su il una titolo di Libero relazione, non è il Corriere della ho Sera. Capito, ma che c'entra? Ma è un giornale. Ma ovvio, ma che c'entra? Ah, su, ma si potrà criticare, si potrà dire ma che certo, è sessista. Si può criticare. No, si sessista potrà no, dire. Certo, Sisto, non è perché Sisto. Gioca con la patata della sindaca. E allora? E non si fa, è una roba brutta, proprio brutta. Come la vuoi dire? Maleducata, come lo vuoi dire? Volgare, come lo vuoi dire? Perché gioca con la parola patata. Cioè, è volgare giocare con la parola patata. Beh, cioè, sei arrivata la parola patata non si può usare. Ma lo avrei detto lo stesso quando fecero quei brutti titoli la sulla parola Carfagna, patata ad esempio, non si può usare. La quando patata. Facevano quei titoli sessisti con altre, quando c'erano delle ministre. No, ma la cosa più incredibile. Di Forza Italia fecero degli attacchi no, vergognosi la cosa più incredibile. Contro le ministre, sì, le donne ministre. La no, cosa sì, più, vabbè, niente. A parte che non lo dicevi, ma la cosa più incredibile. No, lo dico. La cosa più incredibile è un'altra, che a sparare merda su Feltri per questo titolo patata bollente sono gli stessi teorici del vaffanculo. Lo stesso Grillo questo che una volta un diede discorso. Dalla puttana non so chi alle parlamentari, forse alla Boldrini, non mi ricordo. C'è gli stessi che hanno utilizzato la clava ogni giorno per dire le peggio cose, che adesso fanno i difensori della Raggi per la parola patata. Patetici, ridicoli. Pure la tua amica Merlino, senti, vergognoso, tutta questa precisione, vergognoso libero. Brutto quel paese vergognoso dove non ci si libero. Più. Brutto quel paese dove non ci sia più, non si ha più il coraggio indignare di indignarsi. Per cosa? Per patata bollente. Brutto, brutto, per patata brutto, bollente. Guarda. Brutto quel paese, a brutto. Che c'entra l'indignazione? Brutto quel paese dove nessuno osa più dire che una cosa fa schifo. Vabbè. Siccome lo dite, tu è libero ogni giorno sulle storie di migranti che riguardano il comune di Gazzabubolo di 2000 abitanti. Dove due migranti hanno il wifi, titolo scandalo ad Aci Trezza. Che cazzo è successo ad Aci Trezza? Due migranti occupano Aci Trezza, scandalo, trasmissioni, collegamenti, Poletti dalla vostra parte, dalla vostra minchia, quello che telefona, l'altro, assassini. E allora? Ora non vi indignate per questo, per queste mascalzonate vere e proprie. Poi lo dici. Diglielo in faccia dopo. Ma non me ne frega niente a me. Diglielo in faccia dopo. Dopo glielo dici in faccia. 19:30. Diglielo in faccia. È una mascalzonata. Diglielo così. Adesso vado via e torno alle 19:30. Buffone, ogni scusa Merlino. È buona per andare via. Ecco, alle 19:30 torno. Ciao. Buffone. Vado via. No, che bella via. Vado via. Merlino, dai. Su questo voglio dire una cosa anch'io. Una cosa che riguarda noi donne. Questo è il titolo di Libero di oggi. Patata bollente, lo considero vergognoso anch'io, credo che non è il modo di trattare una donna. Lo considero vergognoso anch'io, certo. Patata bollente, certo, le donne, certo. Ma vaffanculo, basta con questa roba qua, basta con questa cosa ridicola del sessismo. Ha detto sessismo, la patata esiste, la patata ma esiste, cosa è una cosa reale, ma è la figa delle donne come il pisello ma dove si finirà con le provocazioni? Voi dite è solo una provocazione, ormai si può dire tutto, qualunque cosa, si può offendere chiunque. Vergognoso, brutto titolo. Mi segno le cose, hai detto vergognoso. Mascalzonata. Sicuramente sessista. Perché fosse stato al centro della vicenda un maschio. Segnatelo volgare. Perché poi tanto non ci sono più. Tanto non ci sono. Quindi no, segnatele pure o rimanda in onda questo. No, vado via. No, quando c'è Feltri, io stasera vado via. Venerdì vado via. In faccia a Feltri. Glielo dico, ma se no rimandi l'audio via. In faccia a Feltri. Ma figurati se glielo dico. Vado via tanto. Poi rimandare perché sono in sciopero sindacale. Abbiamo proclamato mezz'ora di sciopero. Vuoi vedere? No, ci sono polemiche. Che non faccio sciopero? Curiosamente, pure a Sanremo è stata utilizzata la parola patata. Anche lì i signori delle associazioni gay o qualche esponente del mondo omosessuale italiano devono dire, dicono: beh, no, non si possono dire queste cose, però, perché dopo Tiziano Ferro, mica noi ci piace la patata, siamo un po' fuori luogo. Luca e Paolo hanno utilizzato la parola patata e allora c'è qualcuno che ha detto no. Però perché dire questa cosa qui? È una cosa volgare, è una cosa brutta. Ma roba incredibile. Quest'anno Carlo non ci voleva. No, non è vero. No, diceva che non eravamo giusti per il festival. Sì, che non eravamo in linea con le scelte editoriali degli ospiti di quest'anno. Sì, infatti dopo Tiziano Ferro, dopo Ricky Martin e dopo Mica, Luca e Paolo. Ci siamo noi due che tutti lo sanno. Purtroppo, insomma, abbiamo quel difetto lì. Insomma, siamo diversi. Ci piace la patata. Purtroppo... No, ragazzi, che dobbiamo... È una cosa... Non ci piace la patata. Poi molti dicono che è una malattia, a me è sempre piaciuta la malattia. Adesso ragazzi, perché non c'è la stessa indignazione? Cioè, nel senso, la parola patata, no, qual è il punto? Si può utilizzare, no? Si può utilizzare sì no. o no? Si può utilizzare. Ma è il contesto, ma che vuol dire sì o no? Dai. È ovvio che a Zelig la utilizzi. Ma che no? è Zelig? È Sanremo, ma quello che dico, faccio per dire, Zelig è un contenitore eccezionale, veramente. Posso dirti a Sanremo? Cioè, il contesto è importante. Vabbè. Quindi tu dici che siccome è libero e non è il Corriere della Sera, siccome un giornale non è autorevole, per... no, perché questo stai dicendo. No, hai detto così. Diglielo in faccia, diverso, hai detto. Certo. Cruciani, due punti. Siccome è libero, certo. libero può utilizzare quel linguaggio. Perché non è il Corriere. No, come è dire Corriere. Che è meno autorevole. No, assolutamente. Hai detto che è meno autorevole. Hai detto. Cruciani, due punti. Libero è meno autorevole. Lo stai dicendo tu. No, il paragone l'hai fatto tu. Io non ho mai pensato. Io penso che libero sia come il Corriere della Sera. Fermo lì. Io no. Ed ora Donald Traffic. La Zanzara. Vi prego, stasera richiamate Fausto da Roma. Vi prego, voglio ancora i bagherozzi. Voglio i bagherozzi. Parezzo, ma c'hai due bagarozzi in testa, uno spigna e l'altro va all'altra arena, hai capito? Cretino! Allora, un'altra è Asia Argento, ragazzi. È Asia Argento che adesso chiede scusa. Beh, si è detto una scempiata, adesso si può dire che è una cazzata. Scusa adesso, Asia Argento, figlia del grande Argento, del grande regista, maestro del brivido, chiamiamolo. Dai, così su Asia Argento che attacca la Meloni, ma cosa ovviamente che si può fare, si può attaccare la Meloni, sì, ma lo ha fatto in modo totalmente volgare, che ha detto volgare. Che cosa, che è una fascista con la lardosa, ma con la schiena lardosa, capito? E lo dico io che sicuramente non ho, come sai, che mi sono spesso scontrato con il partito della signora Meloni, ma va tutta la mia solidarietà perché è un attacco stupido e vergognoso. Una fascista con la schiena lardosa, no, brutto, bruttissimo. La signora Asia Argento, brutto. A Meloni giustamente ha detto: io non prendo cocaina per tornare in forma dopo il parto. Vabbè, signora questo. Meloni pure non ci è andata, lì, non è andata una mazzata. Però vabbè, insomma, dai, comunque brutto l'attacco che ha fatto la Sergio. Ma sì, non c'è bisogno di dici brutto, è talmente evidente, è talmente evidente. Ma come si può dire tutto, talmente no? Evidente, ma non insegni tu che si può dire qualunque cosa? Ma che c'entra? Certo che si può dire, è legittimo dire. Ma che c'entra schiena lardosa? Ma si può, quindi ha detto una stronzata Asia Argento, no? Totale. Ah, meno male. Vedi che alle volte anche tu ti indigni un po', alle volte quando si indigna sui difetti fisici, ma no, anche poi indignarti, ma che me ne frega. Ma indignarsi non è male, ma dire alle volte Meloni, a me che me ne frega a me. Ma tu puoi anche dire, avrai un giudizio tuo sulle cose. Oh, e ti sei indignato anche tu, e ti fa schifo l'attacco che Asia Argento ha fatto la Meloni. Benissimo. Sciocca la Zanzara. Cruciani contro Asia Argento. Guardate come va a finire. Metterò sempre così, Jay. Come va a finire? Come cazzo va a finire? Allora, ragazzi, a Bologna ci sono quattro cazzoni, quattro imbecilli, quattro deficienti, quattro fancazzisti. Non so più cosa dire dopo aver detto queste cose qua. Coglioni, imbecilli, fancazzisti, i quali pensano che l'università sia zona loro. Pensano che la polizia non debba mettere piede all'università. Dunque, mettono in piedi da qualche giorno proteste perché cosa? Perché dei tornelli in biblioteca. Cioè i tornelli in biblioteca, cioè l'università non può decidere di proteggere una biblioteca, un posto, una sala, un'aula come vuole. No, gli studenti vanno là, distruggono, fanno. Solita, la solita roba incredibile. Sai chi è che gli dà spazio? Vincino, sai il vignettista Vincino? Sì, certo, bravissimo. Che dice, io sono con i collettivi contro quel pezzo di fascista del rettore. Sono con gli studenti, la polizia non può entrare. Via i tornelli, la cultura deve essere libera. La via libera tornelli, perché, via tornelli. Perché pure tu dici via tornelli. Non lo so, adesso non ho studiato. Ieri abbiamo raccontato in diretta che Capanna è andato lì. Capanna, via i tornelli. Ieri, no? Via i tornelli, certamente, via i tornelli, la cultura è libera, occupare, abbiamo occupato la facoltà di lettere, ora procederemo con tutte le altre facoltà a Bologna, stanno già arrivando dai collettivi, dalle altre città, dalle campagne, dalle Alpi alle Piramidi, dal Manzanare al Reno, stanno convergendo tutte le unità dei Katanga su Bologna. Nel corso della diretta verranno date istruzioni su come occupare i locali dell'università. Fate schifo, tu, come si chiama... Tu, gli studenti e Capanna. Fate veramente orrore per questa cosa qua. La polizia dentro l'università può fare il cazzo che vuole. Mettere i tornelli, occupare l'università a mano militari, perché si tratta semplicemente di mettere dei tornelli d'ingresso all'università, dove evidentemente, dove dentro le sale di quella biblioteca, alcuni studenti facevano il cazzo che volevano. Vogliono l'impunità, come al solito, per fare i comodi loro. La polizia deve poter entrare all'università, prendere a manganellate questo, quando uno fa commettere reati. No, però è giusto che la polizia intervenga. Dai, su. Io sono totalmente d'accordo con i colletti, assolutamente contro quella pezzo di fascista, di rettore che ha fatto queste cose qua e che ha osato chiamare la polizia, assolutamente. Ha osato chiamare la polizia, ma Vincino ha rincoglionito completamente. Beh, no, perché devi dire così? Ha un'opinione diversa dalla tua. È rincoglionito, dai. E anche diversa dalla mia, ovviamente. Pezzo di fascista, del rettore che ha chiamato la polizia. Beh, è la sua opinione, perché bisogna dire su. Che... Francesco da Bergamo, dai, su. Ha opinione di che te do, pezzo di fascista al rettore che no, ha chiamato capito, la polizia. Non ti indi- ma guarda che hai due pesi e due misure. La patata va bene. E ora c'entra? Le idee di Vincino invece sono da etichettare come un rincoglionito. Ma perché? Dai. Ah, la sua opinione. Per me si è rincoglionito. Francesco, Bergamo. Ciao, buonasera. Sentite, io ascolto un fracco di anni, non ho mai chiamato. Adesso chiamo perché abbiamo raggiunto il top, come dite voi ogni tanto. Io capisco che si fa polemica, è la cosa divertente. Si provoca, è la cosa che mi piace anche a me quando vi sento. Vabbè, allora? Però il... dare ragione a Feltri sul titolo di Libero della patata. Non è che dare ragione. No, aspetta. Passi patata bollente. Guarda, passo anche patata bollente. Ma allora? Il sottotitolo che è scandaloso. Ma quella è un'esagerazione sul fatto di paragonare Berlusconi e l'oggettina alla storia. Stiamo parlando. Ma quella è un altro discorso, però. Scusami, ma Libero, dove cazzo ero? Dove cazzo ha scritto le robe sulla Consip? Sullo vero. Scandalo più grosso che c'è in Lombardia. Vero. Vero. In Europa adesso non so quanti c'ha anni. Ragione, c'ha ragione. Ma cosa cazzo ha scritto? Perché non ha scritto? Ma cosa c'entra? È un'altra cosa. Ognuno sceglie le battaglie. Perché non ha scritto? Della bocciatura dell'emendamento della Carfagna, la bocciatura dell'emendamento della Carfagna. Senti, amico mio, ma qual è? Ognuno sceglie le sue battaglie. Qual è il punto? Non ho capito. Qual è il giornalismo? Abbiamo allora? Quale sarebbe? Ma di che cosa? Va chiuso? Chiuso? Assolutamente no. Perché va chiuso? O deve essere cambiato il direttore? Sì, va chiuso. È cambiato il direttore perché cosa? Perché cosa? Per avere fatto un titolo? Li prendeva. Sbagliato. Li prendeva. Sbagliatissimo. Sono contro il finanziamento pubblico ai giornali. Poi? No, perfetto. Allora, che c'entra? Perché deve chiudere? Per il titolo patata bollente, cretino, perché? Per il titolo patata bollente, che ho detto, patata bollente poteva anche passare se lo mettevano sul piano del sarcasmo. Allora? In realtà è il sottotitolo che è agghiacciante. Il paragonare e soprattutto. Ma date troppa importanza, perché invece l'accanimento. Ma date troppa importanza, è un accanimento studiato contro la Raggi. L'accanimento patata bollente. Patata bollente e l'accanimento, dai. Ieri ero a Roma per lavoro, parlavo col taxista che non è sicuramente felice di quello che sta succedendo, allora? Ma mi diceva chiaramente che stanno esagerando con la Raggi, poi ha sbagliato tutto, ha fatto sicuramente gli errori madornali, nessuno lo discute, ma è assurdo e pazzesco in un paese civile ed un paese con una cultura come la nostra, che è molto più alta dei signori americani, molto più alta di altri, che un giornale si permette, che un giornale che si reputa serio, perché questo è grave, perché se fosse un giornale tipo i tabloid inglesi, ma è più o meno uguale, ma se si reputano dei non ha fatto l'inchiesta su questo, non ha fatto l'inchiesta, dai, che cosa cazzo c'entra, parla di questa roba qua. Allora il Movimento 5 Stelle, invece di andare a fare le liste di prescrizione giornalisti, dovrebbe tranquillamente andare e denunciare il signor Feltri per le porcate che ha scritto. Questo dovrebbe fare il Movimento 5 Stelle. Ma questo l'hanno già fatto, non probabilmente. Non fare le liste di prescrizione sui proscrizione, giornalisti. Proscrizione. Francesco, aspetta. Fermo lì. A me piace Parenti. Ascolto Gianluca perché sono socievole ma non sono social. Perché a Grosseto Radio 24 si sente bene. Perché quando corro vorrei essere un gabbiano. Ascolto Gianluca perché ci devo pensare. Perché mentre rifaccio il letto mi chiedo se anch'io sono tutta da rifare. Ascolto Gianluca perché quando mi lavo i denti penso alla mia vita. Devo mangiare di meno. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Iperceramica, prezzi super, qualità iper. La Zanzara. Perché? Lo sai perché? È di Benedetti! Sceglie poi! Sauro! Mauro, lo sei, Mauro! A proposito di Mauro da Mantova, caro Parenzo, senza dare troppa importanza, naturalmente, perché non è il caso, il signor Mauro da Mantova, che pensa di essere un grande intrattenitore di folle, pensa anche di essere una grande calamita di ascoltatori, il signor Mauro da Mantova. Ti faccio sentire, ho raccolto tutti gli insulti che mi ha mandato. Gli insulti, perché ce l'ha con te, soprattutto di Maurone adesso. Da Manto. Sì, adesso con te, Otto. Ovviamente, vabbè, in quanto quello. Ebreo, in quanto, vabbè. In quanto teoricamente di sinistra, tutte queste cose qua. Ma con te di base ce l'ha. Sì. Con me è proprio scatenato. Cioè, scatenato contro di me. Questo, però. Come non ha tutti i torti, no, scusa, devo dire. Mauro da Mantova contro Cruciani ha ingaggiato una battaglia. Quel coglione lì, mi viene a dare l'imbecille a me, ma se io ti ho fatto grande la tua radio, imbecille, ho cominciato nel 2008 a intervenire, e tu cosa fai? Dopo che ti ho alzato l'audience, mi dai l'imbecille e mi tratti inferiormente agli altri, che poteva essere Donato, Riccardo o Silvano, perché tu, sapendo che riscuoto l'approvazione di tanti fans, che tu mi tratti come sottogamba, no, mi dispiace, questo non lo accetto. Cruciani è un coglione, non ha capito che io sono il trainante. Se non ci sente più Mauro da Mantova, non si dimentica lui che arrivavano fino a 20 mail al giorno per sentirmi in radio. 20 mail al giorno, e questo si parla di 3-4 anni fa. Come per esempio arrivavano non so quanti WhatsApp per sentire me in radio. Probabilmente perché? Perché sono un personaggio un po' colorito e anche un po' goliardico, ma soprattutto perché dico la verità che le altre radio, le altre TV non diranno mai. Loro volevano liberarsi da me, ma lo volevano fare in modo elegante, ma con me non ci riesci. Hanno cominciato a mettere zizzania facendo intervenire Donato da Varese più volte. È un modo subdolo, tipico degli ebrei, in modo pacato te lo mettono in culo, in poche parole, per farti capire. Ma queste stronze io le sgamo. È ovvio che è stata una scelta definita prima, è stata pianificata prima, a tavolino. Come facciamo a liberarci di Mauro da Manto, che lui dice la verità, che queste qua danno molto fastidio al PD e questo governo abusivo, poi spariamo fango addosso, lo rendiamo ridicolo e lo rendiamo inattendibile. Ma questo con me non ci riuscite. Guarda, quel complotto. Ma cosa dice pianificata a tavolino? Non è stabile. Ma io li sputtavo quelli della Zanzara. Cruciale si è fatto comprare dalla 7 perché è stato bollito o cotto da Mediaset. E allora si è fatto comprare dalla 7. La 7 e il PD è la stessa cosa. Altre 10-12 puntate come quella di martedì che faceva cagare, cioè mi sono annoiato a morte, che faccio ancora 20 puntate del genere non lo ascolta più nessuno. La Zanzara, non preoccuparti, tempo 3-4 mesi chiude perché non ci sono gli ascolti e vedrai se non succede. Si è scavato la fossa da solo. Donato da Varese non è come me, l'unico è Riccardo da Roma, ma Riccardo da Roma non è vendibile. Se gli gira il cazzo di non interviene e lui è a piedi, è a piedi per sempre il coglione. Italiani, conduttori tamarri ed ebrei frocetti coi cazzetti, abbiamo appena depositato dichiarazione di guerra a Radio 24 alla Zanzara e la parola d'ordine sarà una solo: vincerò perché di Mauro da Mantova ce l'avevo solo il nazistello che prende a schiaffi su Niolò quel frocetto col cazzetto di Parenzo e gli darà il pesce in faccia al tamarro Cruciani. Vincerò! I say you pay for Ambulanza, no, infermieri, ma fammi capire, cioè, infermieri, c'è una guerra tra Minus Abens. Fammi capire, chi sarebbe, cioè, chi sarebbe Minus Abens? Cioè, l'amico coglione, chi sarebbe? Mauro da Mantova fa la guerra all'altro Minus Abens, che sarebbe Donato da Varese. No, no, quell'altro, e Riccardo no, da Roma. No, c'è, cioè, una guerra tra giganti, no, proprio. No. Ma che cos'è? Un Aspetta. Congresso della Normale di Pisa? Io sono qui? Io e voi non, non pronunciare più la Normale di Pisa, che sennò ti chiamo il professore l'altra sera. Ma cos'è? Un io sono io e voi non siete un cazzo, senti. Non vi sente nessuno. Sentono Radio Maria e non vi sente nessuno. A te e quel coglione Frocetto col cazzetto ebreo del cazzo di Parenzo. Ma a voi siete nessuno! Te lo ricordo, io sono io e voi non siete un cazzo! Siamo al top! Infermiera! No. Cruciani paraculo, figlio di puttana. Poi attacca, attacca Maurone, attacca. Cruciani, te lo dico spassionatamente, sei proprio un pezzo di merda. Un paraculo, un figlio di puttana. Io ti mando a fare in culo te, Radio 24, quel coglione frocio che hai a fianco e tutta, e tutti quelli che ci sono dietro di te. Vaffanculo, sei proprio un coglione, ok? ragazzi miei, Valeria a Bologna, poi c'è un Valerio da Biella, vai, non vorrei che fosse vassallo, Valeria a Bologna, vai Valeria. Allora io ti volevo fare un piccolo appunto, Cruciano, perché... Sì, vai, dimmi. Secondo me prima hai peccato un po' di incoerenza, cosa che non è nel tuo stile, secondo sì. me. Qual è? Dimmi l'incoerenza, dimmi. Nel fatto che comunque ti sei scandalizzato, tra virgolette, di questa frase che ha detto Asi Argento. Io scandalizzato? Confronto. Figuriamoci, perché ha detto fascista e lardosa. È brutto. Cioè, ma non è che sia di brutto, cioè, perché non ho capito qual è la mia incoerenza, non ho capito bene. Secondo voi questa non è una frase che esprime odio puro? Certo, sicuramente. Ma lei infatti ha diritto, mica dico che deve andare sotto processo a Sargento, dico semplicemente ma qual è il problema? Lei ha tutto il diritto di odiare. Io ho detto diritto a odiare, ma se uno dice lardosa. Ma non esiste il diritto all'odiare. Certo, non che esiste il diritto all'odio. Lo puoi pensare, se lo scrivi ti becchi una querela, se difami, no, se insulti, se attacchi. Quello è un altro discorso. È ovvio, quindi non è un diritto, ecco. Perché se fosse un diritto uno potrebbe scrivere qualunque cosa. Sempre, appunto, siccome Cruciani. Allora, se uno va a una foto. Certo, ma non è che c'è. C'è! Io ho detto che c'è, esiste, non si può togliere. La prova lampante è questa roba qui. Non si può togliere, ma è sanzionabile. Ma quello è un altro discorso. Certo, una che non si può togliere, che vuol dire? Come non si può togliere, uccidere, rubare? Bravo, ovvio, esatto, è esattamente quello che ho detto. Ho capito, io. Però nessuno vuol dire che allora per questo si uccide e si ruba. No, quindi non esiste un diritto. Se non vedete come dice, c'è un diritto alla rapina, no? Cioè, se tu rapini, c'è la sanzione. Ma quel ragazzo che ha chiamato che diceva che se a lui magari fosse successo che una sua parente o familiare fosse investita da una macchina, no? E dice, io sicuramente se si potesse sparare una persona gli sparerei, no? Sì, sì. Quella lì pure nel senso, diciamo che... Ragazzi, c'è il diritto a odiare Asi Argento, tutto il diritto di odiare qualcuno, ma io non approvo, ma posso non approvare questo tipo di odio, che vuol dire? Asi Argento ha tutto il diritto di odiare la cosa, di odiare la Meloni, la odia, gli ha detto fascista, schiena lardosa, pancia lardosa, grassona, adesso non gliel'ha detto, ma insomma come se gliel'avesse detto. Se ci può essere il diritto all'odio, perché ma io ho detto semplicemente, che c'entra? Ho detto semplicemente che ci deve essere anche un motivo per cui tu odi, no? Cioè vai lì che dici magari lei odia i fascisti, per dire. E va bene, odierà i fascisti, ma non si è limitato a dire fascisti. Ma comunque per me Asi Argento ha tutto il diritto di odiare la Meloni. Poi però non diritto. Si deve scusare. Non si deve scusare. Poi si è scusata. Ma che te scusi di che? No, cosa no, ti scusi? Siamo perfettamente Giulietto da Ravenna, vai. Giulietto da Ravenna. Pronto? Dimmi Giulietto, dimmi. Niente, io volevo chiedere a Feltre come mai quando ci sono questi scandali dei preti pedofili, no? Sì, sa che ogni tanto... Perché non fa un bel titolo Preti Bastardi, come aveva fatto con gli islamici, perché non l'ha fatto lui però quel titolo che tu pensi a ricordi sì, di l'ha fatto Belpietro, non sì. l'aveva fatto Feltri, però scusami Giulietto, scusami questo giornale. Sì, scusami Giulietto, ma guarda, dimmi, non credo sì. che abbia problemi a fare un titolo Preti Bastardi a proposito ma di non lo fa perché poi i voti lì alla destra vanno giù, ma guarda, non credo sia vero. Ma no, assolutamente, adesso invece con questo qua patata bollente vanno su i voti alla destra, ma io non vanno su da nessuna parte, intanto sì. cioè, ha messo è d'accordo, è tutto un gioco, tutto dietro, tutto nascosto, io so tutto qui, ma che sai così. Tutto che non sei un cazzo, ma che sei? E tu che non sei un cazzo, dai, so cazzo. Tutto, ma che sai, non sai nulla, è palese non sai niente, questi so tutto. Giornalisti sono questi giornalisti qua e portano voti, dai. Ma portano cosa voti a dire, chi? Ma vabbè, di che parli? Saluto che c'ho da fare, dai. Ma che c'hai da fare? Non sai una mazza e parli? Non ho capito. Giulietto da Ravenna, Valerio da Biella, vai Valerio, vai. Sto a perderti, mi ha chiamato lui, amica mia, chiamato lui. Valerio! Amico mio Crucianino, ma Vassallo, ma non c'è un cazzo da fare, chiami la Zanzara. No, chi è Vassallo? Ma dai, smettila, fai finta adesso che non lo sai. Ma che chi è Vassallo? Io, ma che ne so, Valerio da Biella c'ho scritto. Che ma ne so, ma chi è Vassallo? Ma che vuol dire? Valerio Vassallo è quel demente che mi ha. Che... Scusa, se non so chi è Vassallo, che scusami. Con altri dementi. Ma quali sarebbero gli altri dementi? Ma chi è Vassallo? Ma te lo ricordi quell'animalista là? Quell'animalista. Ma adesso non è che conosco tutti i matti che chiamano in questa trasmissione. Quello che è stato pure in galera per la fidanzata, per lo stalking. Giusto, giusto. Ah. Una trasmissione con dei malati, vengono comunque contattati da altri malati di mente. Vabbè, se ti sei autodefinito malato di mente, va bene, questo per carità. Abbastanza acclarato. Vabbè, vale, che vuoi? Che vuoi? Ascolta, vuoi difendere le formiche? Vuoi difendere i pidocchi stavolta? Chi vuoi difendere? Sono contento che ti stai veganizzando perché no, guarda, parli della patata e non delle salsicce. Ma battutona. Bravo. Ma visto che parli di politica, ma tu che sei un uomo così di culto e così potente, perché non fai qualcosa contro questi politici che vogliono abbattere i lupi? È già finita la cosa, non è passata, per cui no, è inutile che ti finita, agiti, è inutile che ti agiti. Rinviata. Non lo so, guarda, se fosse necessario per qualche motivo abbattere i lupi, che si abbattano i lupi. Okay, se fosse necessario. Necessario, devo vedere se è necessario o no. Se in alcuni casi i lupi distruggono le cose, rompono i coglioni, eccetera, abbattiamone un po'. Non è una tragedia abbattere un po' di lupi, mi sembra. No? Dai, tu dall'alto del tuo sapere, cosa distruggono i lupi? Ma io non lo so, ti dico che la questione non la conosco bene. Ti sto dicendo semplicemente. Va bene, adesso la seguirò, Valerio. Ti dico semplicemente. Chiamiamo qualche poi allevatore, sentiamo la sua versione stupida, qualche politico. Valerio, scusa un attimo, io non lo so che cosa dirti su questa cosa dell'abbattimento dei lupi. Se fosse necessario abbattere un certo numero di lupi per salvaguardare le coltivazioni, perché i lupi sono diventati vegani. Ma non lo so, amico mio. Non ho dei pregiudizi né da una parte né dall'altra. Non me ne frega assolutamente nulla se abbattono i lupi o non li abbattono. Se vuoi fare questa battaglia contro l'abbattimento dei lupi, falla tranquillamente. Certamente non sarò. Ma sei evoluto, sei diventato più maleabile. Sono avvelenato ancora con voi vegani, figurati se ci ho evoluto. Ma figurati. Sei migliorato. Sì, sono migliorato. Ma tu sei sempre vegano, Valerio? Non ho capito. Vedete, sei sempre vegano, eh? Vabbè, quello e i signori cacciatori, che dici dei signori cacciatori? Ma sai invece, Cruciani, ma bisognerebbe, allora, te che hai questo bel programma istigatorio, ma perché non ci metti in contatto ogni tanto con i cacciatori, con i pescatori, con gli allevatori, i circensi, tutte queste categorie di uomini sfruttatori. Ah, sfruttatori. Che sfruttano? Che cosa sfruttano? Non ho capito. Sfruttano gli animali. Sfruttano. Veramente i cacciatori li ammazzano gli sparano, animali. Sparano più caso. Vabbè, io parlavo di categorie che tu sei uno di quelli. Sei uno di quelli, se non sei diventato moderato tu, perché tu sei diventato moderato, che pensi che i cacciatori siano degli assassini, capito? Che siano gente che quando muore un cacciatore, tu sei uno di quelli contenti. Tu sei contento quando muore un cacciatore. Sei contento quando muore un cacciatore, chiaro? Io sono contento se si toglie dai coglioni una persona che distrugge, uccide dalla terra. Sei contento se muore un cacciatore, pensa un po' come stai. Ma non sono contento se muore il cacciatore. Beh, come no, sono contento se sul pianeta Terra una persona in meno che danneggi animali, ecco, bambini, e dunque donne, sei contento se muore un cacciatore. Lo sterminio dei cacciatori. Beh, non è che si è contenti, Cruciani, però lo vuoi o no, lo sterminio dei cacciatori? Lo vuoi che vengano eliminati? Ma no, vorrei solo che capissero che ma non lascia si perdere, fa, capissero, sì. Guarda, l'hai detto prima, sono contento se ce n'è uno di meno. Fermo là. Merde! Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Perché nessuno mi ha detto che Zucchetti fa software anche per grandi aziende? La Zanzara. Domenica 5 febbraio, ore 20:30. L'acqua raggiunge i 100 gradi, bolle. L'aragosta si muove ancora nel lavandino. Prendo l'aragosta e la butto nell'acqua bollente. Già sento il saporino. Nel frattempo cosa faccio? Un aperitivo, un vino bianco Chateau Fussy di 2000. Spettacolare! A vegani, andate a fare in culo, continuate a mangiarvi le vostre carote, coglioni! Rondolino oggi all'aria che tira, il precariato è un valore. E io alle mie figlie ho insegnato che, come posso dire, ho provato a insegnare che il precariato è, non soltanto è una necessità, ma è un valore. Nel senso che ciascuno di noi è responsabile della propria vita e ciascuno di noi deve poter scegliere liberamente in ogni momento che cosa vuole fare. Per cui se fai una cosa, la conseguenza di quella cosa innanzitutto ricade sulle tue spalle. Era ospite studio il padre di un ragazzo che si era suicidato tempo fa. Sai quella lettera che è uscita di recente? Sì, come no, non certo, era il padre certo. di quel ragazzo, era il padre di un altro ragazzo che si chiama Zarcone. Senti. Mm-hmm. Perché mio figlio si è ucciso? Si è ucciso, mio figlio non era depresso, mio figlio era incazzato! Mio figlio era incazzato! Usare il suicidio di un ragazzo per dire che usare il suicidio di un ragazzo, la morte tragica quindi di un ragazzo, la morte di un ragazzo evidentemente con problemi psichiatrici gravi, perché di questo stiamo parlando, che ce l'hai tu i problemi. Per mio usare sano, appunto, non ti per contestare quello, un ragionamento sulla precarietà, scusate, e cioè non sulla mobilità del lavoro, che la mobilità del lavoro è un dato oggettivo delle società moderne post-industriali. Credo che non è che l'ho inventato io, il posto allora, fisso non esiste più. Proviamo a tenere i toni bassi e a rispettarci, perché è una mattinata un po' particolare. Ma mi devo sentire dire becero da lui, no, che offende banditi, che assente. Ho parlato io, ti prego. Ma come si permette? Ma come allora, si permette? Claudio, per cortesia. Che Claudio, non sono un uomo di sinistra, devo difendere Landini. Devo difendere Landini. Ma non bisogna difendere nessuno. Proviamo a non insultare nessuno, a non difendere nessuno. Poco prima Rondolino aveva dato del buffone a Landini, stava parlando con un metalmeccanico. Una classe sindacale responsabile si preoccuperebbe, sì, certo, di adeguarsi alle condizioni e di trovare la soluzione migliore. Allora, mentre invece loro che cosa fanno? Quel buffone di Landini, scusate, e anche questo signore qua accanto, cosa dicono? Il nostro problema è difendere il tuo livello di parlare con le altre persone. I privilegi di quelli che già ci sono. Tu sei un privilegiato. Tu parli così di questi ragazzi perché sei un privilegiato. Pedro da Bologna, vai, Pedro da Bologna. Cioè Rondolino ha dato del buffone a Landini, ha detto che il precariato è un valore, ha detto che i ragazzi che si suicidano, forse il figlio di quello, il figlio di quell'altro, anzi l'ultimo caso si è ucciso per evidenti problemi psichiatrici, cosa che ovviamente può essere vera, anzi probabilmente è vera. Cioè, e poi però i problemi psichiatrici saranno in conseguenza della ma sua no, condizione chi di lavoro. Si ammazza che non... di solito. Ma sai, chi non trova lavoro per 10-15 anni e nulla facente, guarda, gli può venire una crisi depressiva, mi pare abbastanza banale da dire anche, credo, purtroppo. Comunque, si è attaccato. Che poi sia frutto del mercato del lavoro, questo non lo credo neanch'io. Cioè, sono tanti precari che per fortuna non è che ci sono uccisioni di massa, suicidi di appunto, massa, per fortuna. Pedro da Bologna, vai. Ci mancherebbe. Pedro. Buonasera a tutti. Volevo riportare la mia testimonianza, essendo uno studente di Bologna, perché poi Parenzo dice che gli studenti di università non ascoltano la Zanzara, invece ci sono io a portare. Ottimo. Ecco. Vabbè, Pedro, dimmi, dai, forza. Volevo dire che quell'aula studio era la terra di nessuno. L'anno scorso l'evento diciamo che può catalizzare il tutto è stato quando un ragazzo che non era un universitario ha sborrato addosso a una ragazza. Capito, scusa, non ho capito, che cosa è successo? È venuta addosso. Ma chi, come, quando, perché, in che occasione? Ma che porcheria dice? Lo so, è una porcheria, David. In pratica, in questo allo studio potevano accedervi chiunque, sia universitari che non. E allora? Un ragazzo di 30 anni. Vabbè, ma è un caso singolo di uno, ma che cosa vuol dire questa roba qua? Scusa, spiegami. No, per farti capire che lì era veramente la terra di nessuno. Il 36 in via Zamboni. Può entrare chiunque, c'è spazio all'interno. Sì, sì, ma certo, assolutamente. Sì, ma è la solita storia. Qualcuno vuole che l'università sia terra di nessuno, sia un luogo di impunità dove si fa tutto, dove è permesso fare tutto. Hanno messo i tornelli, non so dove, non me ne frega nulla poi di questa storia. Nulla, so solo che la polizia, il rettore dell'università possono fare quello che vogliono. Gli studenti sono ospiti, non sono padroni di un cazzo. Se il rettore, la polizia decidono di mettere i tornelli, decidono di mettere le torrette con i militari, se lo Stato decide di mettere le torrette con i militari, ma che cosa vuol dire? Ma è normale, vuol dire militarizzare se lo Stato dice, ma che slogan è militarizzare l'università? Cosa vuoi militarizzare? Se lo Stato hanno decide il diritto di mettere i tornelli, ovviamente. Senti, i poliziotti non fanno male a nessuno, i poliziotti se decidono di stare là dentro è per mettere ordine in una situazione, dunque non rompessero i coglioni, non ci sono dubbi, magari punto questa basta, volta che sei contro la polizia, sei contro la polizia, sei contro la polizia, ho detto il contrario, vogliamo i poliziotti dentro l'università, l'università. Ma poi non io lo non so, visto. Non mi interessa. Dentro la polizia deve stare dentro l'università a presidiare ogni aula. Ogni aula. Ma figurati, in queste situazioni, naturalmente. Alessandro da Foggia, vai. Sì, ciao, buonasera a tutti. Senti Giuseppe, io volevo dire una cosa, ma tutta questa gente che si indigna adesso per il titolo di Firmi, no? Cioè, dov'era quando venivano sputtanate tutte le ragazze che andavano a Villa Certosa da Berlusconi? Con dovizia di particolari su tutti i giornali, non riesco a capire tutta questa. Le storie, intanto, che lei ha ragione nel merito, ma le storie erano completamente diverse. Cioè, la signora Raggi non è accusata di nulla relativo all'uso del proprio corpo. Cioè, qui stiamo veramente sbarrellando. Il paragone non c'entra proprio niente. Mi dispiace per lei perché è una sciocchezza. Ha ragione nel merito che all'epoca si insultavano ministre perché erano donne, si facevano battute, anche Sabrina Guzzanti e quant'altro. Ma la storia con la signora Raggi non ha nulla a che vedere con quella. Mi dispiace. Sì, ma noi siamo diventati un popolo di bacchettoni perché il tipo no di ma io sto a quello che ha detto lei titolo, ma che bacchettoni ma figuriamoci c'è una libertà sì, di parola un titolo sulle questioni geniale, sessuali è un ma geniale perché siamo noi c'è cioè la gente di malafede che vuole vedere che patata bollente da un punto di vista sessuale ma mi pare la evidente la scelta 5 stelle, ma mi pare evidente adesso non faccio bollente. Finta di nulla ma è chiaro che è un titolo a doppio senso no ma se no non saremmo qui a discuterne no è il gioco di scatenare comunque il dibattito ma l'idea questo. È quella di far scatenare la polemica apposta credo sentite ragazzi no, la parola sessismo la parola almeno non diciamo la parola sessismo ha un significato molto molto chiaro cioè tendenza a valutare la capacità o l'attività delle persone in base al sesso ovvero attuare una discriminazione sessuale nel titolo patata bollente non c'è alcuna discriminazione sessuale poi uno può criticare lo stile il modo la volgarità, tutte cose che si possono naturalmente criticare ed è normale che uno le critichi, ma il sessismo, la solidarietà, perché? Poi uno nel merito solidarietà, può... il fatto ma cosa? Che, ma qual il è fatto l'attacco? Che siccome la protagonista è una donna allora, si gioca se ne sulla frega, questione è un sindaco, sessuale. Ma si giudica sul fatto che si gioca sul fatto che non è ancora chiaro il rapporto tra lei e questo signore che appunto, è stato promosso esatto. Ed è stato nominato e nello stesso tempo ha fatto una polizza vita e qualcuno dice, certo, forse lui certo. Stesso che ha una, come dire, no, una vicinanza sentimentale al sindaco. Tutto da provare. Tutto, no, lui ha smentito. Tutto da provare, no. Come sono da provare mille cose di Berlusconi. Lui ha smentito totalmente, anzi, ha detto che era solo un'amicizia e non ha mai parlato. All'inizio ha detto motivi sentimentali. Non ha parlato con la sindaca. Non hai letto bene. Con la persona alla quale precedentemente era intestata quella polizza, un ex attivista del Movimento 5 Stelle, poi si è lasciato con quella e ha girato la polizza alla Raggi. Ma con la Raggi lui ha sempre negato di aver avuto qualunque tipo di intimità. No, poi perché devo difendere io 5 Stelle? Questa volta li difendo però perché non possiamo, cioè quello che voglio dire Giuseppe che ormai non possiamo più dire patata bollente altrimenti diventiamo dei sessisti e chissà che sì, no, ma tu lo parla può dire quanto le pare parla col microfono dire normale, non le parlare pare, col dai, capo sono in macchina sto guidando e non me ne frega un cazzo a me che stai guidando sto togli parlando col microfono normale non me ne, ma quale microfono normale dai su Umberto da Pescara dai Umberto da Pescara ciao Cruciani. Pronto? Sì, aspetta un attimo, fermo lì. Altro che spa, zanzara tutta la vita. La zanzara. Oh, eccoci qui, Vittorio Feltri con noi. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Come andiamo? Che voi. Giornata, che vabbè, giornata. Dai, chiediamo subito scusa, così abbiamo chiuso la polemica, dai. Ma così quale scusa? Chiuso. Non c'è niente da chiedere. Ma sì, scusa. Vorrà scusarsi, è venuto apposta da noi per chiedere scusa. Allora, dai. Partiamo con le domande. Vittorio, ti devi scusare di qualcosa? Non so a che cosa si riferisca il dotto Parenzo. No, a quel titolo che indubbiamente o è un invito a guardare stasera alla 7, visto che alle 21:10 verrà trasmesso il film La patata bollente, cioè o è un annuncio per il sì, veramente ti giuro, davvero stasera alle 21:10 c'è il film La patata bollente. Allora non so se il titolo di Libero si riferisce al film di questa sera. Non credo. Ecco, se non è così sarebbe vabbè, educato dire chiedere ti devi scusare abbiamo, Vittorio? Abbiamo scusa. No, ma veramente mi disgusti, caro Parenzo. Intanto ti vorrei ricordare che la patata è un tubero e non è la figa, è il tubero. No, questo, però, no? Questo così. Ma è evidente il riferimento anche. No, il riferimento all'organo femminile è evidente. Ma dai, mi fai su. Parlare, mi telefonate. Vai, vai, vai, parlare. Vai. Cioè, la patata bollente è un modo di dire sì. Che riguarda le grane. Quando tu hai una grana, sì. Hai una patata bollente. Non c'è dubbio. Questo, non c'è dubbio. Ecco, se poi qualcuno vuole anche attribuirgli un altro significato, cioè allusivo, padronissimo di Paolo, ma riguarda chi legge e non chi scrive. Patata bollente, in ogni caso, ti vorrei ricordare, caro Parenzo e sì. Cari ascoltatori, sì. Che è un titolo che io feci il 15 gennaio sì. Del 2011 e riguardava Ruby Rubacuori. Ebbene, sì. Lo stesso titolo non suscitò la minima polemica. Anzi, perché anzi. Si parlava di Berlusconi e dei suoi diletti. Di tipo sessuale allora nessuno disse niente, nessuna critica neanche mezza, chissà perché sì. Avendo fatto lo stesso titolo per questa signora abbastanza chiacchierata, è verissimo che non abbiamo la fotografia di lei col fidanzato eccetera, però mi pare che l'assessore Berdini, che verrà anche interrogato, sì. Abbia sì. Detto bello. qualcosa eccetera. Inoltre sulla polizza c'è scritto motivi affettivi, di solito l'affetto con una donna si sa benissimo che cosa allora, sia. Poi sono sì. Stati fotografati sul tetto che scotta come la famosa gatta, e allora noi non possiamo fare una cronaca fedele ai fatti in senso anche un po' ironico, non possiamo fare, mi devo scusare per quello che ho fatto. L'hai letto il mio articolo? Ma no, certo che l'ho letto, no. Ce l'ho qua davanti. Parenzo non ha letto un cazzo. È chiaro, se no non direbbe. No, non solo, non, solo, che... non solo, ha detto prima, adesso glielo devi ripetere in faccia. Certo. Allora, innanzitutto la domanda precisa è questa, perché è importante. Non c'è nessuna scusa da fare, giusto? Non c'è nessuna scusa. Poi vorrei ricordare a Parenzo che ma se non ha solo qualche cosa, no, a te, se hai qualcosa da ridire sul titolo, non sono io la persona con la quale devi dibattere, ma è il direttore responsabile. Vabbè, è uguale, Vittorio. Adesso, no, questo... non è uguale. Sì, l'amico Senaldi va benissimo, ma non è un problema quello. Ma scusa, sì, ma è un problema, ma non c'entra. Io lo difendo. Ma è vostro il giornale, dai, cosa c'entra adesso? Ma mi fai dire o no? Io sto difendendo Senaldi, però se proprio devi fare un dibattito su uno specifico, fallo con lui. Com'è parla dell'articolo? Sì, sì, no, io rimango alla patata perché è evidente. Perché, adesso tu. Perché ce l'hai in testa? Ma non tu, ce l'ho io solo. Anche voi a lì. Ma scusa, se la patata l'hai usata anche per Ruby Rubacuori, sì. È evidente che avete voluto, come fate sempre voi, perché giocare era... sull'equivoco. Ma questo è il punto. Equivoco. Almeno rivendicalo. Ma... rivendica il fatto e dici: sì, abbiamo voluto apposta giocare sull'equivoco della patata. Se ma almeno dicessi questo, io altrimenti vado io. Ma che discorso è? Ma scusami, ma almeno ammettere. Ma scusami. Ho capito, guarda, allora vai avanti. Però Vittorio, ma scusa, no. È evidente che c'è evidente Vittorio, che il riferimento è evidente è che c'è un riferimento anche alle parti intime della signora scusa, Raggi. Ma è evidente che è un articolo ironico, l'ho detto certo, prima. Ma è... il titolo è in sintonia con l'ironia di tutta la faccenda, perché la vogliamo prendere sul serio la signora Vittoria Raggi. No, ma ho capito, però, ma però, fosse allora, stato un uomo, però non avreste giocato sul suo organo no, sessuale, ma probabilmente. Ma avete fatto un calambur, no, questa è una un calambur apposta su. Ma quale calambur? Non sai neanche cos'è il calambur. Guarda, ragazzi, avete fatto un gioco di parole fatto apposta. Ma scusa, hai detto prima hai detto che ha fatto una mascalzonata, ripeti che è una mascalzonata. È un'assoluta mascalzonata perché gioca sull'organo sessuale della sindaca. Ma come mai quando non l'abbiamo fatto per Ruby Rubacuori, non hai detto niente. Beh, no, intanto non hai detto, intanto, nessuno non detto, è altro. E intanto non ho detto niente, non è vero. Allora, però, primo, loro, secondo, non puoi paragonare la Raggi a Ruby Rubacuori. Ma stai buono anche tu. A parlarne alla radio. Ho detto che non puoi paragonare. La Raggi è una cosa, Ruby Rubacuori è un'altra. C'è solo perché? Due storie. Perché è marocchina. Vuoi dire che è uguale? Razzista, no, è la figlia di Mubarak. Intanto, è la figlia di Mubarak. Ma la nipote, scusami, è la nipote di Mubarak. Non è marocchina. No, ma è una storia diversa, allora quella di Ruby, da quella culo della sindaca. È diversa la storia, no? No, c'è non un... è diversa. No, è non uguale, è diversa. Ma no, allora si gioca. Se sì è uguale, vuol dire che entrambe. Ma Ruby Rubacuori mi sembra, come dire, facesse un uso della sua. Beh, ha fatto la prostituta, però. Meno male ha fatto che la prostituta, Cruciani, per cui è un po' diverso. È diverso dalla Raggi, questo sto dicendo. Per questo era una scalzonata paragonare le due cose. Tu non lo puoi dire. No, e cos'era? Una orsolina? Cos'era? Una suora? Cos'era? Capito, però Vittorio, dai, scusa, adesso andiamo alle critiche che ti hanno fatto. Andiamo alle critiche che ti hanno fatto. Perché il presidente della Camera ha detto che è giornalismo spazzatura. No, aspetta. No, del Senato. No, no, della Camera. No, anche la Boldrini. No, la Boldrini. La Boldrini. Allora hanno parlato tutte e due. Sì, tutte e due, anche Grasso. Boldrini, non hanno niente di meglio di cui occuparsi. Giornalismo spazzatura parlando di sessismo. Il sessismo può essere criticabile, il titolo, il paragone con Berlusconi, il paragone con Ruby, eccetera, sì, ma si tratta sempre di un giornale e di una, come dire, anche di una, di un paragone che viene fatto per le possibili implicazioni, no, sessuali della vicenda Raggi. Appunto. Perché ha promosso uno che gli ha intestato una polizza, no? È che evidente, gli ha triplicato lo stipendio. Per cui anche, è evidente che non c'è nessun paragone. Nessuno paragona Berlusconi alla Raggi e Ruby Rubacuori alla, alla... Ma un titolo. Se parliamo del titolo, sì, allora, la prima cosa da fare, vale per tutti e non vale solo per la signora Raggi. Dai, ma allora, le altre critiche, i signori Grillini ti hanno detto troglodita da quattro soldi, una senatrice che si chiama Lezzi, troglodita da quattro soldi. Ma sono insulti, devo rispondere agli insulti. No, ma mi fa specie che i Grillini che non sono di solito teneri, no, nell'insultare le ma persone. Ma se hanno fondato un movimento sul vaffanculo. No, appunto, dico, per questo. Ma, no, ho capito, ma però, che cosa voglio? E infatti li abbiamo io li ho criticati per la questo, taverna. Dopodiché oggi li difendo perché sono stati attaccati su una questione che sessuale, che non c'entra nulla col loro movimento. Questa è la mia critica, cioè mettere in mezzo la patata tecnicamente nella vicenda della Raggi non c'entra nulla, perché non c'è nessuna dimostrazione. Che ne sai? Ancora non si sa. State ancora dicendo non il contrario. Si sa. Ancora voi non state si sa sostenendo che la patata sia al centro del scandalo, no, del cosiddetto. Sì, lo hai detto anche Vittorio, tu adesso. Sparisca la testata, ha detto un'altra Grillina, la signora Taverna, sparisca. Vabbè, la testata. Adesso questo perché questo vuoi mandare a fare in culo Di Maio, Vittorio? Ma scusami, hai presente cosa ha fatto? Ha fatto una lista di sì, proscrizione di giornalisti, ha presentato all'ordine dei giornalisti, e la cosa divertente, si fa per dire, è che il Presidente non l'ha ricettata come avrebbe dovuto fare, perché questi sono metodi, vorrei dirlo anche a Parenzo, sono metodi fascisti. Sì, su questo hai ragione, su questo quindi, è vero, io allora, dottore, la lista è una stupidaggine, allora, questo è evidente. E allora io lo vorrei mandare a fanculo. È tutto lì, perché non si loro usano il vaffanculo come teoria politica e poi se lo mando io a fanculo non va bene. Ma io non ho capito, non lo so, però, ma io non vi capisco. Però scusami Vittorio, Vittorio, però la parola patata, questo oh, si può dire. Che ma male, questa pazza, si può dire che è un riferimento diretto a quella ma roba lì. Sicuro, ma non fate gli ipocriti. Siete degli ipocriti. Non è un riferimento preciso. Ti sto dicendo che la patata bollente è anche una grana. Certo, dice, non c'è dubbio. No? È sia una grana e sia la grana che la figa e sia la grana e sia la grana. Capirai che titolo è patata bollente. Vabbè, ma guarda che uno deve essere contento di un titolo che fa discutere, secondo me. Sì, cioè, ho capito, ma ne parliamo come se fosse una tragedia. A me, è Parenzo, io figura per me. A me sembra una mascalzonata, perché ma fa che riferimento. Perché fa riferimento. Adesso poi manco lo difendete, peraltro. Siete curiosi tutti e due, sia Feltri che l'ottimo Cruciani. Adesso fate tic e toc. Dice, no, non è la patata, in realtà bolle, è un vegetale, è un tubero. Ma perché ragazzi, non è un tubero la patata, ma è sicuramente un tubero. E allora, ma se è un tubero, la Raggi ha ragione ad arrabbiarsi. Ma l'uso che vuoi del tubero. Ma sai che uso? Sciocca la zanzara, sai che uso si fa. Ciao Vittorio. Basta, Vittorio. Sono più di coglioni. Ciao. Cruciani, ma va su. La zanzara. Avvicina il carnevale e io per prepararmi non mi lavo da una settimana, puzzo, non mi cambio le mutande, C'ho 8 o 9 anelli alle dita, mando a fanculo tutti. Indovinate da che mi vesto. E riflettevo su una cosa, ma se Salvini è in contraddizione perché è pagato dall'Europa per uscire dall'Europa, Parenzo, che è pagato dalla Zanzara ma vuole chiudere la Zanzara, non è peggio? Allora, a proposito dei 5 Stelle che vogliono far chiudere Libero, dicono che Feltri è un troglodita da quattro soldi, deve sparire la testata, eccetera, eccetera. Io voglio solo ricordare, oltre a tutti gli insulti che di solito fanno i 5 Stelle, assolutamente legittimi secondo me, tra l'altro, Grillo tempo fa, non so, prima ho detto ha dato della puttana, non so a chi, eccetera, forse non ricordo bene l'episodio, ce n'è un altro però che è sicuro. Una volta scrisse: cosa succederebbe se ti trovassi la Boldrini in macchina, ti ricordi? Come no, sì, sì. Lanciando una specie di, come dire, di caravanserraglio mediatico di della Boldrini, sì. Capito? Cioè questo è... Sì, no, ma io infatti siccome non ragiono come loro... Su un titolo che è patata bollente, che è chiaramente ironico e non è sessista, è un titolo ironico su cui ridere, invece. Su cui ridere, non possono dire nulla, ecco, su non possono sbagli. Dire nulla. Su questo sbagli, perché io non applico la reciprocità, dici, ma ah, che siccome... c'entra, è una ma non è un insulto, patata bollente, dai. No, però scusa. Scusami, hanno tutto il diritto di arrabbiarsi, ma loro, ma perché uno scrive patata bollente, no, e fanno bene ad arrabbiarsi, così come li ho criticati su quella cosa della Boldrini che giustamente hai ricordato, e hanno fatto una cazzata, oggi fanno benissimo ad arrabbiarsi col Libero, io non lo trovo in contraddizione. Davide da Torino, dai Davide, non è la reciprocità, dice non puoi arrabbiarti perché anche tu sei uno stronzo, ma che no, roba, ma che per me non è assolutamente un errore scrivere patata bollente, è una cosa normale per un giornale come normale, Libero, sì. Certo, si gioca sul fatto, tratti così, si Libero? Gioca sul perché fatto, dici per un giornale come Libero, come fosse perché un giornale che ha dei titoli aggressivi, non come il Corriere della Sera, in quel senso là, dai, su, non essere stupido, lo capisci per perfettamente, no? Come Libero, come Davide fosse da Torino, un giornaletto, certo, no, assolutamente. Lui non pensa che sia, vabbè, un giornaletto, Davide, anzi. Da Torino, dai, forza. Giuseppe, ascolta una domanda, ma tu sei contento se muore un vegano? Ma figurati se sono contento, che sei matto. No, sei. Allora perché costantemente tu fai questo gioco di tentare di tirar fuori il peggio delle persone compromettendole? Tu sei un po' come quelli che buttavano i massi dai cavalcavia, no? O come quando si faceva da piccoli che si buttava l'olio sulla strada per vedere poi chi andava a bocciare. Ma io non ho mai buttato l'olio scivolando sulla strada. Cioè tu, Cruciani, sei rimasto a 14 anni, questa è la realtà, Davide, della Zanzara. Davide, okay? Io non ti mando a fare in culo perché sono una persona tranquilla. Ma no, ma mandami pure a fare in no, culo. No, per carità, assolutamente, ma io ho semplicemente chiesto al signore di prima che ha chiamato, che era il famoso animalista di Biella, se lui provava piacere quando moriva un cacciatore, ed effettivamente mi ha risposto come al solito sì, che uno di meno, cioè siccome no, loro non ha detto fanno... così, ma tu beh, fai la no? stessa cosa con tutti, ieri sera con Pucci tentavi di tirargli fuori che lui tradiva la cosa, vabbè, cioè, ma Davide qui è una discussione su che cosa, sensazionalismo, cerchi di buttare cerchi la pietra, cerchi sensazionalismo e guardi dalla finestra e sei sì. lì, questo è il e comportamento allora? Puro dunque? Da puro vigliacco dunque? Come sei? Puro tu sei vigliacco, un vigliacco senti. Di merda, Cruciani. Eccolo, bello, questa è la realtà. Vai all'attacco, okay? Vigliacco di merda, sei bravo. Un di merda. Vai all'attacco, e Davide. Muro a muro quando vai all'attacco, radio, vai all'attacco. Ti cagli sotto, ma di chi? Muro a muro. Ma di chi? Vado questa a casa, vado a casa allora, tranquillo, vado a casa tranquillo. Con te stesso e ammettilo, almeno quello. Vado a casa tranquillo. Parenzo sarà anche servile, ma che fai nella vita? Nella vita che fai? Però è uno intelligente che si assume le sue responsabilità. Tu che fai nella vita, Davide? Che fai nella vita? Io ho un negozio. Hai un negozio, bene. Sì. E a casa tutto a posto? Tutto a posto. Tutto a posto, cioè famiglia. Ma io vi ascolto ogni sera, famiglia, però figli, ci tenevo a dirtelo. Famiglia, figli, famiglia, sì, figli. Sì, sì, due figli, due moglie, figli. Tutto perfetto. Tutto perfetto, no? Tutto regolare. Perfetto. Allora, vigliacco perfetto, di merda. Grossa, cosa però, significa perfetto. Vigliacco di merda? Spiegami. Nel senso, questo significa che tu da dietro di questo merda? Microfono sì, ti protegge dietro beh, certo, davanti e è difficile. Tenti di tirar fuori il peggio delle persone. Il peggio delle persone. Infatti anche da te ho tirato fuori il peggio. Fai il conto di anche da te ho tirato fuori il peggio. Dicono questa frase. No, Cruciani, io non l'ho anche detto. Anche da te, vigliacco di merda, hai detto. Vigliacco di merda, mi hai detto. Certo, vigliacco certo, di merda. Sì, sì, sì. Dunque ho tirato fuori il peggio da te. Il peggio. Ah beh, certo, è chiaro, certo, una è chiaro. Volta che riesco a prendere la linea, certo che te la dico come te la devo dire, scusa, cosa faccio? Vado per mezzi tempo, tra l'altro tu non vuoi neanche che si dica ciao, buona, se tu vuoi che si arrivi al punto, allora dico vigliacco di merda subito. Ma no? Che vuol dire cosa vigliacco di merda? Cosa vuol dire? Non vuol dire questo! Ma non vuol dire che nulla! Tu da lì fai fai tanto il figo, poi quando arriva la gente là sotto non esci, o comunque quando cammini in giro non è, cioè, fai così, tiri fuori il pe- cerchi di tirare fuori il peggio della gente, la merda delle persone. Vigliacco, vigliacco. Sì. La vigliaccheria è un'altra cosa, però. No, assolutamente, assolutamente. Anzi, guarda, te la dico, te la metto meglio, te la metto meglio. Meglio, una forma di vigliaccheria, diciamo, congenita, quando ma uno perché 14 quella cosa anni, muro muro, sì, così, quella cosa muro muro, che vuol dire muro muro? Sta al balcone a guardare cosa succede. Sì. Un po' come quelli veramente che buttavano i massi dal cavallo. Scusa Davide, che significa che quando non sanno cosa succede? L'importante è che hanno creato il casino. Sì, Davide, beh, a me piace creare il casino. Scusa Davide, per quale motivo io dovrei uscire da qua e passare e diciamo andare a casa muro muro, come hai detto tu? Spiegami. Beh, perché, perché sai quanta gente ti vorrebbe rompere il culo a te? Quello è vero. Io no, quello io non sono, tra l'altro io non sono un vegano. Quello è vero, eh. Quello è vero. Ma che c'entrano i vegani fai adesso? Così. Ma c'è il video che è successo con gli animalisti là sotto, quella ragazza sì, che ma io non faccio a botte in vita mia. Tu sei tu che vuoi fare a botte, io non faccio a botte. Io no, assolutamente. Altri mai vogliono fare a botte, io non mi metto mai non mi metto mai sul piano, non mi metto mai sul piano, non mi metto mai sul piano di chi mi vuole aggredire, amico mio. Io al massimo aggredisco a parole. A parole aggredisco. Certo, questa è una differenza che tu non capisci. Sì, che tu non capisci, chiaro? Le parole sono importanti, diceva sì. Qualcuno. Cruciali, le parole sono pietre. Importanti. Sono pietre. Il tuo strumento, tu sono pietre. Radio, più che parole non puoi fare. E quindi le fai così, come le fai. Io ripeto, comunque domani sera tornerò a sentirti. Ma questo te lo volevo ciao, dire. Ciao, ti abbraccio. Ciao, abbraccio. Fabio, dai, faglielo credere. Per Fabio da Palermo, vai. Fabio. Cruciani. Dimmi, caro. Ciao. Io sono inferocito con la Chiesa Cattolica. Beh, hai ragione. La Chiesa Cattolica è diretta responsabile. No, voglio farti ascoltare prima, ragazzo. Voglio farti ascoltare, sì. Fabio. Le parole pronunciate l'altro giorno da noi ve le voglio assolutamente riproporre da il papà. State bene ad ascoltare, sì, ragazzi. Perfetto, così mi investirò. Tutti quelli che siete all'ascolto adesso, ascoltate bene i tantissimi che sono all'ascolto. Le parole del padre di un ragazzo violentato dal prete, da Don Gianni, il prete là di dov'era? Di Bari, non mi ricordo dove, di Molfetta, da quelle parti là, la diocesi di Lucera, il quale, lo ripeto per l'ennesima volta, nel 2012 è stato buttato fuori dalla chiesa. Sì. Per essere stato scoperto come pedofilo, dopo non è stato detto nulla alla magistratura, ha iniziato a fare allenatore di calcio, ha stuprato, violentato altri ragazzini, ha messo le mani addosso, eccetera, eccetera, perché non sapevano nulla, le famiglie non sono state informate. Il padre di questo ragazzo ci ha raccontato questa storia agghiacciante. Lui allenava la squadra, faceva dopo scuola e quindi facendo dopo scuola ce l'aveva in casa e con il suo inganno trascinava questo mio figlio a questi rapporti. Ma singolarmente o anche in gruppo? No, singolarmente. C'è uno che ha messo le mani addosso a suo figlio, che ha fatto quello che ha fatto, lo ha violato a 11 anni, a 12 anni. Cosa sì. Merita secondo lei? Non glielo posso dire, ma lo immaginate. No, no, non lo immagino, me lo dica cosa merita secondo lei. Un'imbiccagione come minimo, un'imbiccagione. E qualcuno pensa addirittura che i pedofili vadano castrati, cioè ci voglia sì. Un'iniezione, no? La castrazione chimica. Castrazione chimica, certo, questo. Sì, ma non ai pedofili. Io inizierei dai preti proprio. Quali? Quelli che hanno taciuto o in generale i preti? No, i preti, quelli che hanno taciuto, perché tutti, cioè non tutti, la maggior parte sapeva di questa persona, il suo atteggiamento, i problemi che aveva, sì. E nessuno ne ha parlato. È più colpevole chi non ne ha parlato del malato sì, pedofilo? Sì, sì. Fabio, vai, Fabio. Allora, Cruciani. Dimmi. La Chiesa è diretta responsabile di tutti gli atti di pedofilia che sono stati compiuti sui bambini. Sì, sì, certo, direttamente dirò, responsabile. Direttamente non c'è responsabile anche. Ma dovrebbero fare le cause di collettive come hanno fatto in America. Dovrebbero fare esatto, un mazzo così. Allora, dovrebbero ridurre Bergoglio e tutti quegli altri in povertà. Cioè, sì, dovrebbero, dovrebbero strappargli anche le palle. Questo è il punto. Ci vuole parecchio per ridurre in povertà. Quello che volevo dirti è che loro, peraltro, si arrogano il diritto di insegnare la Bibbia. Ma la Bibbia gliela mette in quel posto la Chiesa, caro Cruciani. In che senso? Sì, perché la Bibbia dice che i preti in realtà possono fare sesso. Sì, vabbè, in teoria, ma non è così. No, devono sposarsi. No, vabbè, devono sposarsi, no, dai, c'è il celibato, dai, su, non dire stupidaggini. Sì, il celibato però vabbè. Non è così. Non ciao, è così, Massimo però, La Spezia, dai, Massimo. Ciao, Cruciani, ciao. Dimmi. È un piacere sentirti. Vabbè, dai, niente, dai, io scusa. Sono un iscritto al Movimento 5 Stelle, ma così non sono uno proprio che fa casino, però uno che segue, un simpatizzante. E stamattina ho visto i titoli dei giornali che parlavano di questa patata bollente, streaming qua su internet, e mi sono messo un po' a ridere anch'io che sono un iscritto, perché insomma è un titolo. Ma lo vedi, è normale, lui è un iscritto al Movimento 5 Stelle e si è messo a ridere per quella roba lì, si è messo a ridere. Assolutamente sì. Cioè assolutamente Parenzo, ascoltalo questo qua, si è messo a ridere, si è messo, è un iscritto al 5 Stelle, si è messo a ridere per quel titolo, se ne frega, no, come i politici. È normale sono che uno è andato ad aprire alla papessa. Sì, però ti voglio dire che quindi non mi interessa dalla patata più nulla alla papessa, di quella. D'accordo, dalla patata alla papessa. Questo è un altro discorso. Vabbè, dalla patata alla che, papessa. Peraltro è qui con il bambino, col piccolo. Buonasera signore. Buonasera. Col buonasera bambino, col piccolo Pietro, no? Sì, Pietro, piccolo lì, Pietro. Allora, c'è anche l'enfant, allora, il bambino di quanti anni ha suo figlio, signora? 7 mesi. Con 7 mesi, un bambino di 7 mesi, ospite dentro gli studi della Radio 24. Va benissimo. Bene. Ciao, allora, ospiti. Ciao. Allora, Massimo, 5 Stelle, si è messo a ridere sul titolo di Feltri, non si è fatto incazzare. Penso che un movimento come 5 Stelle ormai è dentro la politica, deve abituarsi anche a questi titoli. Perché nella politica questi titoli qua sono, non dico una questione di dianità, ma insomma sono all'ordine del giorno, perché attaccare i politici poi anche poi da una parte di testate, di parte. Sì, ma ragazzi, ma i 5 Stelle hanno fatto dell'offesa, dell'attacco, ma anche violento. Sì, sì, una caratteristica culo, principale. Ma cosa vuol dai, dire? Su. Ma non è la reciprocità. Adesso per patata bollente qualche senatrice o qualche deputato dei 5 Stelle si incazza. Ma fanno bene ad arrabbiarsi, così si modereranno per il futuro, peraltro. Fermi io tutti, sto fermi, con loro. Fermi, pubblicità, in studio, sì. Immacolata Ciauchi insieme al figlio prete. Attenzione. No, prete. Come figlio prete? Che dici? Sto scherzando, figlio già prete, già diventato prete. Ma assolutamente no. Pietro, ciao. Ormai non ho più relazioni di sorta, solo solitudine e zanzara. La zanzara. Allora, caro Parenzo, Francesca Immacolata Ciauchi insieme a suo figlio Pietro in studio, figlio di 7 mesi, ha scritto da poco un libro che ha come titolo Nel nome di Pietro, ricchezze, virgola, affari, intrighi e scandali dalle carte segrete della commissione del Papa. Mi chiamo definitivamente lo Stato del Vaticano. C'è un capitolo in particolare che si chiama Francesco è in pericolo. Allora sì, adesso ne parliamo, però Pietro dunque non c'è il coso. Pietro non è figlio in questo caso, no? Come no? Nel nome di Pietro, nel nome di San Pietro. Però immagino, io prima di dire due cose sul Vaticano, sul Papa, soprattutto sul pericolo che corre Francesco. Sì, che se corre un pericolo, no. Ma che è successo? Perché vi siete insultati con Liguori? Scusami, signora Ciauchi, perché? Perché a un certo punto, mentre ero tranquilla lì in studio, compare un tale Fabio Marchese Ragona, che lavora lì, è l'inventore dei tweet falsi. Come è quello là che lei ha pubblicati. Quali falsi? Beh, però questo lo dice lei, sapere se è vero. Questo posso assicurarvi che è così. È cioè, l'inventore dei tweet falsi dove, quando, in che occasione? Tanto tempo fa praticamente comparve sul giornale a firma di Fabio Marchese Aragona delle schermate che riproducevano il mio account Twitter e riportavano dei presunti tweet che io avrei fatto. Cioè è entrato ha fatto, gli hanno passato. L'ha dimostrato. C'è qualcuno che lo dice, questo è solo accusando lei di essere dice. Questo tizio di essere un falsario è stato praticamente una storia che è andata avanti per 3 anni. Cioè, tu stai dicendo questo è un falsario, vabbè. Però dove lui non risulta totalmente, non l'ho querelato perché poi ci siamo in qualche modo insomma magari ho querelato Liguori ieri, però no, è stato ma è arrivato benissimo. Questo che è successo? È arrivato questo, niente, a un certo punto mentre io stavo tranquillo, questo mi fa una domanda e mi chiede ma è vero che in questo momento sta offrendo carta giornalisti che la intervistano? Addirittura. Cioè, ma questo Fabio Ragona. Comprendete bene che insomma diciamo che non è stato proprio. E questo in diretta avveniva, no? E questo avveniva in diretta. Ah. Non è stato un momento alto del giornalismo italiano. Vabbè, e Liguori che ha fatto? Che c'entra Liguori allora? E Liguori ha dato ragione al suo giornalista, ovviamente dicendo che questo è bravissimo, che l'ha formato lui, infatti si vede la qualità del sia sua che ho del capito, giornalista. Però al di là di questo tu poi gli hai dato del pagliaccio. Sì, poverello, fallito. Vabbè, adesso non ripetiamo. E lui mi ha dato della ladra. Lui mi ha dato ladra della ladra di documenti. Ma la cosa divertente è che ha iniziato a farlo dall'account ufficiale di TG.com. Vabbè, quello è il direttore. È il direttore. Ho capito. Direttore. Immaginatevi, allora Orfeo a un certo punto stasera vi prende l'account Twitter del TG1 e comincia a insultare. Non lo so. Ma scusa, però Raggi. Tu gli hai dato del pagliaccio, poverello, lecchino. Mi sono segnato tutto. Uno che la proprietà si tiene per pietà. Questa è una cosa gravissima, scusami. Vabbè, anche dare della ladra in diretta alle persone. Ho capito, sfigato, sfigato, opaco. A te l'ha detto trafficante, ladra di documenti vaticani. Questo abbiamo detto poco. No, d'accordo. Questo perché lui si riferisce alla condanna che c'è stata in Vaticano. Che non è stato assolutamente né per traffico di documenti, né men che meno perché l'ho rubati, ma semplicemente perché ho presentato Gianluigi Nunzio ed Emiliano Fittipaldi e Monsignor Balda, che è diverso. Quindi lei non è stata condannata. Io sono stata assolta dalla divulgazione dei documenti di giornata. Cioè, per cui sono quando lui dice assolta. Ladra di documenti, dice un falso, signor Paese. Certamente signor che dice un falso, ma quelli lui e Fabio Marchese Ragona sono di per sé stessi dei velinari. Ma come dei velinari? No, ma che vuol dire dei velinari? Allora, guardi, sa dove ho incontrato Fabio Marchese Ragona la prima volta? Adesso non ci interessa, vabbè, Fabio Marchese Ragona, chi cazzo lo conosce, No, vabbè, è un poverino, insomma. Ma poi è un signore che fa il suo mestiere e fino a prova contraria lo fa bene fino a oggi. Nessuno l'ha mai accusato di nulla. La prima volta che ci siamo incontrati ci siamo picchiati in Vaticano davanti al comandante della gendarmeria. Che rapporti avete, ragazzi? Comprende, ci siamo prese a botte davanti al comandante della gendarmeria. Ma perché hai detto a Liguori quelle robe? Scusa, poverello, lecchino. Perché mi ha dato della ladra e non deve permettersi. Ma ho capito, ma che vuol dire lecchino? Lecchino, che vuol dire? Cioè, non vuol dire niente. Cioè, lecchino di chi poi? Siete il bambino? Siete il bambino che ha commentato. Anche Pietro è d'accordo che quello è il lecchino. Ma la proprietà si tiene per pietà, questa è una cosa grave. Uno dice la proprietà, cioè Mediaset si tiene per pietà di cuore. Senti il bambino, cosa ti ha detto? Diversamente non potrebbe essere. Ma ho capito, ma questa è una cosa. Ma non è vero, ragazzi, ma non è però adesso noi non vogliamo problemi. Cioè, non è che io non mi attribuisco nessuna responsabilità per questa roba qui. Nemmeno io. Beh, nemmeno tu. Tu l'hai detto, l'hai scritto. Detto. Ma perché è sfigato? Detto, perché scritto. È sfigato, poverello? Poverello. Beh, vabbè, ma scusami, però se non ti assume nessuna responsabilità, allora perché? No, però al di là dell'attacco personale, no? Ma certo. Ma parliamo del mio libro che quindi pare è finissimo. Ha fatto un attacco personale perché l'hanno criticata rispetto alla divulgazione di questi documenti. No, questo è legittimo. No, assolutamente. Lui si è permesso di darmi della ladra. Allora la ladra lo dà alla sorella. Vabbè, adesso questo diventa una roba. Ma poi hai detto pure che quella è sposato con una che appena vanno a letto insieme cioè ha detto delle cose tremende, dai. Tipo? Su. No, vabbè, invece no, attenzione, la moglie è un avvocato bravissimo. Tu hai detto la moglie è con i coglioni e lui uno sfigato. Vabbè, però perché bisogna fare le cose personali? Cioè, se lei ha una personale, però se lei ha una querelle, ce l'ha giornalisticamente e fa una polemica giornalistica, non sulla vita privata di una persona, no? Insomma, quelli sulla mia vita privata hanno fatto di tutto qualche tempo fa. Adesso, se volete, se permettete, mi tolgo qualche sassolina dalla scarpa. D'accordo, ma se tu non sopportavi Liguori, perché ci sei andata allora a TGCOM24? Se pensi che sia un pagliaccio, un poverello, un lecchino. Posso dire, invece no, attenzione, fino a ieri io avevo un'alta considerazione di lui. Lo ritenevo comunque una persona che alla fine aveva un suo equilibrio, comunque faceva un telegiornale decente. Invece, dopo ieri mi ha fatto trovare quello lì a sorpresa in collegamento. Mi ha dato della sfigata dall'account ufficiale. Di TGCOM24, insomma, della ladra. È evidente che dopo un po', insomma. Però hai detto tutto quello che pensi dopo. Pagliaccio e tutto quanto. Vabbè, fermi tutti, pubblico. Fermo. Quando sento il traffico divento pazzo. La Zanzara. Luciani, sei uno stronzo. Cioè, fai parlare bello figo che spara solo cazzate e chiudi il telefono e deridi delle persone che veramente hanno bisogno di aiuto. Sei proprio un coglione. Ancora con questa telefonata di questa settimana, quel signore lì che era completamente sconnesso, non è che non lo volevo far parlare, figuriamoci. Se uno vuole parlare perché è disperato può parlare tranquillamente qui, non c'è nessun problema. Allora, Francesca Immacolata, ciao qui con noi. Voglio chiederti a proposito della pedofilia, cara ciao chi, siccome ci sono molte notizie in questi giorni, voglio capire dalla tua esperienza, insomma, molto dentro le cose vaticane, quanti preti pedofili ci sono? Cioè, quanti ne hai conosciuti di preti pedofili? Quanto è dentro il Vaticano, il palazzo, la pedofilia? È coperta veramente o no? Allora, io sono stata testimone di una storia abbastanza preoccupante che racconto nel mio libro, ovvero di come una persona accusata di aver coperto dei sacerdoti accusati di pedofilia sia stata condotta dall'Australia in Vaticano e sia stata in grado di prendere un passaporto vaticano che oggi gli impedisce gli consente di non essere processato nel suo paese. Questa è la storia del Cardinal Pell sulla cui sì. testa oggi grava l'accusa di violenza sessuale su due bambini e di aver coperto dei sacerdoti. Giusto? Esatto, ma questo che è il rumore del figlio sotto, non ho capito. Sì, il bambino che respira. Scusa se il bambino respira. Scusa, no, ma è curiosa la cosa. No, sto sentendo il rumore del bambino. Vai, ciao! Ciao! Come stai, Chico? La roba pazzesca. Ciao. Saluta questo mostro cattivo di vorrei Cruciani. Vorrei capire quanti, secondo te, la percentuale che c'è in Vaticano, proprio Cruciani. Come ridi, David, amore? Tra i capi del Vaticano, tra i cardinali, quanti pedofili ci sono, secondo te? Quanti pedofili? Allora, cardinali accusati direttamente di pedofilia, ritengo che nella storia della Santa Sede ad oggi ci sia soltanto il cardinal Pell. Secondo ancora, te invece... è ancora accusato di pedofilia. Secondo me. Io non ho conosciuto direttamente cardinali accusati di pedofilia. Ma è ad alti livelli? È introdotta ad alti livelli la pedofilia, secondo te? È coperta ad alti livelli? Beh, sicuramente nei casi passati ci sono stati dei casi in cui la pedofilia è stata coperta da cardinali. Per esempio Spotlight, il film che racconta gli abusi sessuali. Il cardinale, diciamo, responsabile di quella vicenda lì era il cardinal Lo. Senti, ma puoi dire al Parenzo di smettere di giocare con tuo figlio, per favore? No, non so, è veramente fastidiosa. Sta giocando lui con la... ti faccio la foto. Sta giocando lui con la cordina del microfono. Del io microfono. Sono lontano da lei. Allora, fastidiosa. È una, dici sempre: raccontiamo la verità. La verità quando c'è un bambino, finalmente. Che qui sì, hai visto? Perché devi parlare col bambino? Perché non dolce, capisco. Ma sei proprio inumano. Io poi voglio chiedere. Scusa, ma hai trovato la colf? Hai trovato la colf? Sì, c'è qua, adesso ne parliamo e te la presentiamo tra poco. Infatti, era la sorpresa che volevo fare. Scusa, ha fatto il test dell'AIDS? Hai fatto il test? Sì, l'ha fatto. L'ha fatto, se volete potete anche. Ma perché gli hai chiesto il test dell'AIDS alla cosa? Non ho capito. Perché alla colf il test l'AIDS, no? No, anche se fosse stato chiunque avrebbe dovuto fare il test dell'AIDS, perché comunque se si taglia è un gran casino. Ma no, ma è una come non è mica necessario chiedere a una colf il test dell'AIDS, scusa. Beh, non è neanche necessario chiedere alle colf di indossare le divise, invece le mie ce n'hanno tre. Cioè, ognuno ha i suoi vizi. Tre divise. La divisa c'è. Certo. Vabbè, che vuol dire tre? Non ho capito come tre divise, una per il giorno, una per la prima colazione, una per la colazione. Allora, c'è una la divisa sera. Con la quale deve giocare con Pietro, c'è una divisa. Quando deve fare le pulizie o stirare per Pietro, c'è un'altra. Quando dobbiamo uscire, per esempio, adesso c'è una divisa. Perché non volevi una trans come golf? Si era proposta una trans e l'hai rifiutata. Questa è la realtà. Questa è la realtà. Ma no, ma dai, non l'ho rifiutata. Io ho fatto un colloquio e poi gli ho proposto di venire a fare un colloquio da me nella mia agenzia, perché ritenevo che lei andasse meglio per quel tipo di lavoro. Ah, quindi l'hai presa, interessante questo. Quindi l'ha presa a lavorare nella sua agenzia, la trans. Non ha voluto. Però cioè, perché, vedi, perché non possono andare con i bambini le trans? Perché non possono fare le babysitter ai bambini? Beh, allora io non ho un pregiudizio in generale se lo possono fare o meno per i bambini. Per il mio ho preferito una persona diversa, insomma, mi serviva qualcuno. Cioè, una trans non ti piace? Ma no, mi serviva un po' qualcuno che avesse un passato un po' meno complesso. Cioè, la mia tata al momento ha un passato linearissimo, tranquilla, precisa. Tu hai detto, non ha un pensiero, ma i trans, cioè, non ha un pensiero nel senso non ha una sofferenza. Vabbè, ma ho capito, ma che ne sai, perché i trans sono sofferenti, secondo te? Beh, sicuramente, insomma, c'è un periodo della loro vita che è certamente travagliato. Beh, ho capito, ma magari la tua c'ha altre sofferenze, altri pensieri, che ne sai? No, cioè, no, mica la gli hai fatto no, lavaggio no. al cervello. No, cioè. No, giuro, la mia è una donna felice. Ma che sai che sembra molto felice qui. Io non ho capito una cosa, perché una trans non può fare la babysitter a un bambino piccolo? Io non riesco, secondo te. Non la riteneva adatta per l'educazione di suo figlio, non lo so. Ma semplicemente per il fatto che io non la ritenevo idonea per quel lavoro lì. Poi a prescindere da, non perché era trans, ma perché comunque... Ma sì, perché era trans, dai, su. No, perché era trans. Ma non perché era ma trans. Ma come no? L'hai detto tu prima, non voglio una persona che non sia una trans a fare la babysitter di mio figlio, dai. Voglio una persona che abbia sofferto meno. Mio marito lo ha spiegato bene questa cosa qua. Noi cercavamo una persona per Pietro che comunque... Ma il test dell'AIDS invece? Il test dell'AIDS è risultato negativo? Certo che l'ho chiesto. Ma perché io l'ho capito? Quando uno sceglie una colfa, Parenzo, tu pure hai una colfa. Hai chiesto no, il, intanto l'AIDS? Io non ho, intanto io non ho una colfa. Chiesto... E non vorrei. No, cioè io ho una tatta, ma è diverso. Una non tata, credo vabbè, che sia ragazzi, un reato. Però non fate queste no, distinzioni. È completamente diverso. Hai una tata, tata hai chiesto il test dell'AIDS? Ma no, qui io non ho chiesto, ma capisco chi lo può chiedere, questo non mi scandalizza per nulla questo. È una persona che lavora in casa, che sta con te ogni giorno, che sta a contatto con i bambini, così come avviene negli asili pubblici. A me mi pare veramente una così come avviene negli asili privati e pubblici dove si è a contatto con i bambini e vengono fatte le vaccinazioni. Ma non entro nel merito, ti sto spiegando. Ma no, ma ti sto spiegando che può sembrare una precauzione assurda, ma per chi sta a contatto con i bambini 24 ore su 24, uno gli chiede fedina penale, quello mi sembra evidente. se assumi una persona. Poi controlli chi ti metti in casa, perché è una persona che lavora con te, bah, e per te sta in casa 24 ore al giorno. Ma tu non ti sei mai occupato di queste cose, quindi capisco ma che non te chiedo le prendi, il test dell'AIDS, dai, su. Ma perché... se sta a contatto con tuo figlio, non ma è chi se ne frega il anche test la dell'AIDS, questione delle vaccinazioni, dai, ad esempio. Anche le patite abbiamo chiesto. Le vaccinazioni, ma questo, vabbè, ma questo che gli avete chiesto pure, non lo so, quanto scopa, quanto non scopa, non lo so. No, quanto... non credo, no, c'è non il credo bambino, che... non assolutamente. C'è il bambino. Non è prevista questa attività al di fuori del matrimonio, stiamo scherzando. Come al di fuori del matrimonio non è prevista? Ma stiamo scherzando, ma questa roba qua, la mia tata che fa questa roba lì, cioè si congiunge carnalmente al di fuori del matrimonio, insomma, al di fuori del matrimonio non ci si può, non ci si può. Lo sapevo. Al di fuori del matrimonio non ci si può congiungere carnalmente? No. Ma perché scopri, tu eri vergine prima di conoscere tuo marito? Questo è magico. A voi sembra strano, invece sì, però è anche vero che mi sono sposata, mi sono fidanzata a 17 anni e mi sono sposata a 22, quindi insomma, cioè, secondo te diciamo è sbagliato, ho avuto poco tempo, è sbagliato, è sbagliato congiungersi carnalmente fuori dal matrimonio. Per un cattolico è così, ma ragazzi, anche io sono per, cattolica, anche... insomma, ma è pieno so di cattolici che scopano a destra, ho capito, a manca. Ma è religiosa, ma però dice, uguali, quindi, Ma roba è carina. Attenzione, per cui il sesso anale è sbagliato, secondo te il sesso anale è sbagliato? Mamma mia. Scusami, abbiamo fatto una roba con la posso dire. Però attenzione, cioè, nel senso, ogni volta che noi cristiani, cavolo, ribadiamo uno dei nostri concetti fondamentali, uno dei nostri precetti, tutto il mondo si scandalizza. Cioè, attenzione, esiste un catechismo della Chiesa Cattolica che dà dei precetti precisi, Cioè, non è che noi... Ma ho capito, ragazza, però è una roba del medioevo, dai, non fare, non trombare prima del matrimonio, non fare l'amore prima del matrimonio, dai. Ma non l'obbliga nessuno. No, però non, cioè, è una roba del medioevo, è una roba che lo dice il catechismo della Chiesa Cattolica. Ma ho capito, ma non lo fa quindi nessuno, medioevo, dai, ma non lo fa nessuno. Non è vero, non ti... Ma non lo fa nessuno, l'ho fatto, per esempio, dai. Mi sono fidanzata a 17 anni, ma l'ho fatto. Sì, e dunque pure il divorzio, quindi... il divorzio non esiste, il divorzio è sbagliato. Nella mia cultura è inconcepibile, nella mia cultura cristiana è inconcepibile. E l'aborto pure è un assassino. L'aborto è un assassino. Totale. Un assassino, cioè noi siamo in uno stato criminale praticamente. Siccome ammettiamo l'aborto, il nostro stato è criminale. Per me quella legge lo è. Cioè legge criminale. Dunque noi, ma trasferimento in Vaticano subito, dove peraltro non te vogliono ormai essere cattolico. Ma noi, io non so nemmeno se è più in Vaticano la gente è cattolica. Matrimonio gay che cos'è? Una porcheria? Matrimonio gay è una porcheria? Ma allora il matrimonio è una cosa, le unioni civili sono una cosa, il matrimonio in nome di Dio è un'altra. I gay attenzione. Sono malati? No, assolutamente no, ognuno è libero di fare quello che vuole. Ma io non sto qua a giudicare quello che fanno gli altri, io sono qua a giudicare quello che faccio. Vabbè, io dobbiamo, quindi... dobbiamo finire. No, voglio chiedere l'ultima cosa, ma quei manifesti contro Papa Francesco che sono apparsi in tutta Roma, quelli che attaccano il Papa, una cavolata. Ma sono nati dentro il Vaticano? Assolutamente no. No, il Vaticano c'ha mezzi molto più subdoli per distruggere le persone, cioè? Quelli li attaccano a mezzo stampa, non attaccano quattro cretini. Ma chi sta distruggendo il Papa? Ma per il momento nessuno, perché grazie a Dio il Papa è forte. Però diciamo che c'è una parte a cui le attività di Papa Francesco non sono mai piaciute. Certo, anche lui ha commesso degli errori, perché per esempio portare Pell a capo della segreteria dell'economia quando è accusato di pedofilia poteva evitarselo. Pell il pedofilo. Ciao a tutti, fermi. Ciao. Più sesso, meno zanzara. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Perché nessuno mi ha detto che Zucchetti fa software anche per grandi aziende? La Zanzara. Parenzo, ma che biancheria intima usi? Bella domanda questa, eh? Ma io... Tipi da zanzara, vai! Tipi da zanzara. Fausto, Roma, vai! Pronto, buongiorno, buonasera Cruciani. Ma vai. Quel cielo broleso de Parenzo sta là, quel deficiente? Sì, è qua, è sempre qua. Chi è questo signore? Buonasera. Fausto de Roma, cretino. Tu sei un comunista di merda. Comunista però con una M. Una M basta, non comunista. No, ce ne metto cinque. Basta una. Sei un comunista di merda. Cos'è questo? 19.38? Ah, sì, scusi, è l'angolo dell'idiota. Me devi far parlare. Sì, no, ma sono... È il suo spazio, 19.38, l'angolo dell'idiota. I zingari e gli extracomunitari. Sei un comunista di merda. Con una M sola. È uno stronzo. Ma perché? Che ha fatto? Ma che ha fatto? Difende i zingari. difende, no, ma, l'ente, no, della comunità. Ma non sono zingari, gli zingari, gli zingari, si dice gli zingari. Ma romano, Cruciani, io sono romano, parlo come romano. Appunto, gli zingari, e, no. 5 minuti fa ha dato contro le forze dell'ordine. Capito? Abbiamo dato, abbiamo dato immediatamente comunicato di quanto sta avvenendo a Bologna, dove dei ragazzi stanno occupando. Sì, però hai detto pure buttate le sedie fuori, così le forze dell'ordine scappano come conigli. Come... Fausto, ma tu che c'hai contro gli zingari? Che c'hai? Io contro i zingari io li devi sterilizzare, li devi sterilizzare. Ecco, bene, una cosa molto moderata. Cioè, molto moderata, sterilizzare così. Sterilizzare i rom, gli zingari. È stata dalla guerriglia Laura, confermato. Cruciani, non servono a cazzo, sterilizzati. Così fra 30 anni il DNA non esiste più, capito? Quello di dinosauri lo conservavamo perché erano gli animali che potevano essere buoni. Invece i zingari non servono a cazzo, sono parassiti, sono ladri dalla nascita, sono razzisti loro contro di noi, si li cunetra, muleva di mortacci vostri, ma addossanno. Non pisci sotto la doccia. No, quello no. Non pisci, no, non lo fai. Io dovrebbe vedere, io vorrei essere la mosca. Io te vorrebbe vedere. Io te vorrebbe vedere. Tu l'hai mai pisciato sotto la doccia? Ma vaffanculo. Ma io, ma io la faccio sul lavandino di casa tua. Se pisci sotto, che fai? Esci dalla doccia e vai a pisciare gesso. Ma certamente. Sei l'unica persona al mondo si fa una cosa del genere. Quanto è bello quando uno sta sotto la doccia e picchia. È una meraviglia. Ma no, che schifo. Io esco dalla doccia e vado a pisciare dentro la tazza. Ma che cazzo, ma chi vuole raccontare, Parenzo? Lei è sposato, ha una moglie, sì, la voglia di, come no, come ce l'ho la moglie, come ce l'ho, perché se me la scopo, so, si la scopano l'altro, questo non lo so. Esattamente sapere. A questo volevo arrivare. Io le consiglio una cosa, mentre lei è qui a cazzarare con noi e a insultarmi in diretta. Mi moglie sta a scopare con qualche un altro. Non uno. Non ma uno. Sì, ma mia moglie mi porta i soldi. Sono meglio in quattro! Sono in quattro più due che guardano e riprendono! Mi moglie mi porta i soldi, invece tu moglie lo fa gratis con qualche comunitario dentro qualche accampamento del zingari. Beh, stiamo ormai, bello mio. Stiamo avanti. Quali sono le tue considerazioni finali sui migranti? Tutti a casa loro, a casa loro. Ma come? Ma in che modo? Perché l'Africa non ci sta tutta in Italia. Se no si prendesse il Papa e si mettesse dentro al Vaticano, così non ci rompono i coglioni. Capito? Tipi da Zanzara. Questo era il signor Fausto Parenzo. Signor Fausto. Sì, sì, l'ho sentito. Fausto. Oh, Donato Varese, vai, Donato, vai. Proprio Donato. La galleria degli orrori, a questo. Vai, la galleria degli orrori, proprio. Allora, no, altro cocazzo dell'orrore. Dimmi. Allora, quello che voglio dire, tu sai che stasera c'è Sanremo, no? Sì, io stasera, anche domani. Io non ho mai parlato mai di quello brubrioso spettacolo. Beh, in maniera pubblica, questa è la prima volta. Sì, è la prima volta che io parlo di una manifestazione di Sanremo fondata sulla merda. Cioè, in che senso fondata sulla merda Sanremo? Scusa, spiega. Allora, prima cosa vorrei domandare a Crozza, come si chiama quel comico che fa ridere le genti teste che gli scrivono altri? Vorrei sapere come mai che se l'è preso con... Io anche io ho attaccato il Papa, no? Perché il Papa per la sua, Crozza, diciamo, una cosa, tu sei un'altitudine. Crozza. E che vuoi io dire? Ho attaccato il Papa per la sua inettitudine, però ho attaccato, l'ho criticato, però avrei tanto voluto che lui facesse un bello spettacolo criticando un imam. Comunque, al di là di questo, imam. Allora, pronto? Sì, vai, sì, Donato, prego, miserabile, che hai forza, da dire, che hai da dire? No. Non ho capito. Allora, io quello che voglio dire, che la prima volta che parlo di Sanremo, dire delle cose. E dimmi una cosa, dai Donato, dai. Che c'è? Pronto? Sì, vai, Donato! Niente, è invecchiato, è invecchiato molto. Ma che è invecchiato molto? Non riesco a sentire questo cellulare. È invecchiato, è anche sordo ormai. È invecchiato tutti, dai, poco male. Anche Donato Davarese è invecchiato. Dai, dimmi. Diciamolo da stasera, è invecchiato. Mauro D'Amato va ormai rinchiuso in un manicomio criminale. Donato, sono finiti tutti i mostri. No, Donato Davarese ormai è sordo. E Riccardo Da Roma, poveretto, è rimasto forse l'unico, ma... Finito ormai. Non riesce neanche più a fare... La De Filippi la considero come il Romano Prodi della televisione. Cioè, è intoccabile, tutti parlano con ossequità. Sì. Ho cercato un piccolo articolo che qualcuno criticasse, lambissi un po' la persona della De Filippi. Ma perché è ormai invecchiato? A parlare come se fosse la regina di questa nuova. Che ha fatto? Il discorso. Allora, De Filippi mi deve a me spiegare, a me che io pago il cane, a me deve spiegare come si è permessa a collocare tre suoi, come si chiama, cavalli della sua scuderia. Che se uno si chiama Silvestri, un altro. Vabbè, si chiama... E dov'è il problema? Cosa stai dicendo? No, dove cazzo hanno fatto queste selezioni? No, ma hai perso smalto, amico mio. Chiudi qui, chiudiamo col ricordo tuo di quando eri giovane, facevi anche delle intemerate divertenti. Chiudiamo qui perché stai diventando patetico, sei Donato. Vedi che si carica? Stai diventando. È come quei vecchi attori di Hollywood, no? Che poi fanno i remake dei film a 80 anni. Scusa, sei patetico, basta. Donato, dai. Ci sono troppi gay a Sanremo? Io avrei preso, come si chiama, Robbie Williams, avrei preso quel Micali che non so neanche che cazzo, quel Micali, quell'esasperazione del niente, Mica, come si chiama, quel alto, Mica. Però avrei preso, come si chiama, quella Mengoni, li avrei messi tutti e tre assieme, gli avrei messo una bella gonnella e gli avrei fatto ballare, gli avrei fatto ballare la danza delle checche, la danza dei froci. Sarebbe stato un grandissimo spettacolo invece di dare i baci finti alla De Filippi. Comunque Sanremo, io ve lo dico, io vorrei avere degli... Sanremo è fondato sull'infamia. Ma perché? Sarebbe quale uno infamia? Spettacolo che dovrebbe essere rimosso. Rimosso, sì. Come? Ce la fa perché non ce la fa, perché ha l'asma, non ce la fa. Non ce la fa. Ma come non ce la fa? Ma non che vuol dire rimosso per cosa? Non ce la fai più. Catapultato! Ha incendiato! Ma che cazzo ha mai prodotto Sanremo? Ma è come quei cantanti dell'anno scorso? Vecchi. Come quei cantanti vecchi. Una manifestazione che non interessa a nessuno. Se venisse fatto in un grande oratorio, nessuno lo cacherebbe. Ti informo che ci vanno milioni di persone. Vince su tutto. Allora, io sono contro. È rintronato questo qua ormai, te lo dico io. Improduttivo. Ma chi è questo qua? Non ho capito. Ma cosa ne sai tu? Ma ormai sei debole, ma vai a cambiarti il catetere. Ma amico mio, ma ormai sei invecchiato, dammi retta. Si fanno tanti Sanremo. Ma noi ti vogliamo ricordare come stavi qualche anno fa. Ormai è finita, perché devi fare il remake di te stesso? Sei anche patetico. È bello ricordarti com'eri. Ma no, disgraziato, eri meglio prima, Donato. Oggi veramente, poverino, ma sei invecchiato. Ma è bello. Ma è come se Gassman a 90 anni avesse fatto di nuovo il programma, il film Il Sorpasso. Ricordiamolo, Gassman. Dai, ma sì, ma sei spompato. Sei un mostro. Mostro finito, sei finito. Sei un mostro finito ormai. Tutto pazzo. Sanremo come cazzo mio sta in culo la mucca. Ma tu puoi essere, ecco, quello può essere, eventualmente può essere. Sanremo demolita. In nome della musica, in nome della grande musica, non delle cazzate. Ha parlato Wolfgang Amadeus Mozart. Dai, su. Come cazzo qua? Ah, vedi che si ricarica un po'? Vedi che si riaccende? Scusami, Mozart. Ma è un illecito, figlio di puttana, questo è un illecito. Scusami, Mozart. Mozart. Ma con chi stiamo parlando? Con Mozart? O con Donato da Varese? Le mie vicissitudini sono. No, noi purtroppo siamo già islamizzati. Ecco, adesso è passato dal Sanremo all'Islam, che è il suo campo di battaglia. Aspetta, Nurra. Aspetta, Donato, Nurra. Sì? Sì, ciao, come stai? Diciamo 50-50, voi come state? Come va? Tutto bene? Sì, sì, 50-50. Hai fatto preghiera stasera? Yeah. Fatto la preghiera. Com'è che fa la preghiera tua, no? Oh, Allahu Akbar, l'hai fatto? Allahu Akbar, alillahi alhamd. Adesso c'è un signore qua che odia l'Islam. Che bisogna dire a quelli che odiano l'Islam, secondo te? Allora, secondo me nessuno deve odiare nessuna religione. Bravo. Né Islam, né induista, né buddista, né cattolici. Ecco, ma l'Islam è religione di pace, no? Religione di pace, Islam. Tutte religioni sono del pace. No, ma Islam in particolare è una religione di pace. Allora, Islam proprio, parole, testuale... Si chiama pace. Islam significa pace. Porta pace. Allora, certo. Donato, senti, davanti al signor Nur Alam, che dice che Islam porta pace, visto? Ascolta un po', come si chiama questo qua? Nur Alam, come si chiama? Nur Alam. Porti rispetto. Signor Nur Alam, ascolta un po', io voglio parlare piano, sì. È la prima volta che sto parlando con un islamico in radio. Sì. Ma è un evento clamoroso! Donato da Varese per la prima volta si confronta con un islamico, allora, ma questo è stupido, nulla, sai. Nulla. Tu c'hai genitori? Chi? Nur, il nome si chiama Nur, Nur Allah, sì, ma sì, hai sì, genitori, sì, sì. Benissimo. Sì. Se io Nur, a te vengo a dire sì. che tuo padre, sì. tuo padre è un mandante, tuo sì. padre è un mandante di tante persone che vengono uccise in Italia. Tu a me cosa mi dici? Ma che c'entra adesso? Non fare questi giochetti. No, ma no, rispondere, rispondo. È bello, mi deve rispondere. Rispondo. Prima di tutto io conosco al mio padre non è questo tipo di personaggio che mandano a uccidere qualcuno. Io dico che tuo padre è un assassino. Io ti dico, rispondo che lei non conosce mio padre. Vabbè, se dico che è un assassino, tu cosa dici? Ah, Donato, sai, tuo padre, mio padre non vabbè, è ma padre. Questo signore è un signore pacifico. Secondo te è portatrice e portatore di una... Quello che io voglio dire, quello che voglio dire. Lei non conosce mio padre. È giusto. Donato, come rispondi? Quello che io voglio... Allora, esiste solo Dio. Allah, per me, non è Dio. Per me è una cosa inventata. Va bene, questo di bisogno di vedere, questo di bisogno di dire. C'è l'unico Dio, anche credo io. Ma perché deve fare delle bestemmie? Perché deve dire questa cattiveria? Questa è la terra. Allora, i cristiani, questa terra, purtroppo, per colpa di quel porco del Papa, che non ha insegnato agli italiani. Allora, un attimo, signore. Proprio la religione, secondo capitolo di Johann, dice io vado al mio padre santo e da lì mando spirito di santo. La domanda è questo spirito di santo chi è? Vabbè, ma questo qua è un invasore. Questo ma nulla... l'Italia di chi è? Di quale Dio è? Devi rispondere di quale Dio è quest'Italia. Ma perché lo vuoi cacciare dall'Italia tu? Perché lo vuoi cacciare? Ho detto, mi deve dire di chi è l'Italia, chi l'ha creata l'Italia, chi è il creatore dell'Italia. Ma che ne so, la storia, che c'entra, cosa vuol dire? Dio creato l'Italia. Ma chi è questo Dio? Come si chiama? È lo stesso. Mi devi dire come si chiama il creatore? Vabbè, allora. Ma è unico, ma che dice sto stupido? Allah, Dio, qualcuno è lo stesso. L'Italia non è di Allah. Ma cosa dici? Diglielo pure a questo porco di parente. Ma questo è stupido proprio. Ma sta male di testa. È lo stesso, non bestemmiare, è lo stesso. Si chiama in modi diversi, ma è lo stesso. Ma questo è stupido da ricovero. È il Dio della Bibbia. Ma è lo stesso. Si chiama in modo diverso, stupido. Dio della Bibbia, Dio dell'Abramo, Dio della Bibbia, Dio dell'Adamo, Dio della Bibbia, Dio della come si chiama Davide, Dio della Dio e Dio della di tutto. Io non ho mai visto stupido, sporco che è a fianco, questo sporco, ma no, che stupido che ma io il livello di stupidaggine. Il ma livello queste domande, di stupidaggine, nemmeno lui ti sa rispondere. Vabbè, Donato, che bisogna fare con sto Nur Allah? Cacciarlo dall'Italia, secondo te? Certamente, da cacciare, Nur Allah deve... questo farà i figli, questo c'è un bel cazzo, chissà quanti figli farà. Ma che c'entra? Ma che c'entra? Allora... Che schifo, i figli che schifo. Dei figli, i figli dei figli. Allora, gli italiani, come si chiama? Le donne italiane, il ventre delle donne italiane è quattro volte meno delle donne islamiche. Le donne islamiche hanno soltanto un compito: islamizzare la terra. Vuoi islamizzare questa terra? Per loro non è di Yahweh, non è di nessun Dio. Diglielo, digli qualcosa, Nur Allah, digli qualcosa, Donato, di qualcosa. Allora, vai a farti curare. No, come lui sempre entra nel mezzo. Il discorso è questo: il Dio che fino a lui, come si chiama, non lo so come ha detto che lui crede. Donato, io sì. Come si chiama lui? È scritto nella Bibbia ed è scritto anche nel Vaticano. Allora, lui crede in Dio, io credo stesso a Dio. Finché lui non può arrivare a questo. Vabbè, ormai siamo alla follia. Fermi tutti. Simone da Pisa. Fermi tutti, basta. Simone, vai. Dimmi, Simone. Siete degli analfabeti. Sì, dimmi. Totali. Dimmi. Dite una miriade di cazzate. Sicuramente. Allora, Simone, dimmi. Però non parlate mai di quelli che cagano poco. Che cagano poco? Cioè, che vuol dire? Vado a cacare una volta a settimana. E voi parlate di quelli che cacano tutti i giorni. Una volta a settimana sei malato, eh? Ci sta. Però, ho capito, ma perché vuoi parlare del fatto che caghi una volta a settimana, scusa? Perché voi parlate sempre di quelli che cagano sempre. Beh, perché è normale cagare, insomma, in maniera frequente. Tu una volta a settimana hai dei problemi, vatti a fare visitare. Ma per voi è normale.